sai. Claudio, ciao, buongiorno. Ma lo senti a B2? Io lo sento, ma sento anche a te, tutto Saturo. Saturo? Io ce l'ho come ieri, non è che... Come lo ieri sono. Non sei come ieri, non c'è. Non sei come ieri. Sei Saturo, la modulazione è compressa. Ti porta via tutto l'ecco, ciao, Eugenio. Non l'ho mosso quasi. Già, ti serve a te. Allora non ci guadagnare, se te li copri il tuo bene, puoi fare come ti piace. Troppo ingresso è terreno, troppo. Quando lineare Saturno vuol dire che c'è troppo accesso d'ingresso. E prima o poi ti scoppia, lo sto dicendo, puoi fare come vuoi. Io te l'ho regolato. Te l'ho detto come lo devi tenere, mettiti un puntino e non lo toccare. E non lo mettere a sesta potenza, perché ti ho detto che non cambia niente. Proprio niente cambia, poi ti possono dire tutto quello che ti piace. Cosa hai detto B2? No, non ho cambiato niente, sento un po' più buono, la modulazione è sempre uguale, sei basso di radio, basso. E la giusta mi ha di M1000, non fai che attaccarlo con l'apparecchio e fatto il gioco. Quello lì cosa gli ho dovuto fare? I contatti li ho dovuto cambiare. Alla gala. Non è il 2000 che rende molto di più. Io dice che il valioncino non rende quello che c'è a casa. Tant'anni una microfonia. Ma l'F24? L'F12 mi pare. Mi vanno meglio quelli che si ripete oggi, ma li ho già letto io oggi, se non mi comprendi, non serve a niente che microfoni oggi, tra l'altro prendi il microfono come Cristiani, non è cambiato niente qua, la modulazione è sempre bassa, sento solo il beep e boh. Poi non ne avrei mai preso, parli di giocattoli, che è quel coso giallo, boh. Quindi Dio, goccia di Dio, quante goccia. Quanto costa? Cioè si prende per 10.000 da 3 volte meno. Non lo so, però purtroppo le scelte sono quelle. Ma buccia, me lo preparare che uscire, fare una commissione, poi rientro dopo. Ci sentiamo, così va bene comunque Gianni, così vai più che bene. 9.40 la radio super 5, non aumentare perché sto dicendo, guarda che fai danno. Lascia il capo così, come di latta, che bugare la manopola, vai che se ti piace. Ti porta via lei con la modulazione tutta distorta, nel senso che compressa. Bella da sentire, bella così da sentire. Ciao Claudio. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao. Allora. Sto chiedendo, devo uscire a fare una commissione. Ci sentiamo stasera se coincide. Non so se sono a casa, non so ancora decidere cosa fare. Per il momento sto uscendo, devo fare una commissione urgente. Devo andare a tirarmi la furgonetta. Ci sentiamo dopo, se ci siete. Vai già. Ciao, anche a te, Antonio, hai sentito. Ciao Claudio, dai. Ci sentiamo dopo se coincide, perché forse vado fuori stanotte. Magà. Avanti, Antonio. Ciao, va. A più dopo se coincide, vi saluto già adesso, qua mi stanno confermando che stasera non ci siamo. Ciao a tutti, divertitevi alle prossime comunicazioni, ciao. Pronti, ciao, mi vedete quasi tu. Allora già. E allora qua siamo. Qua a riposarci un po' perché abbiamo lavorato tutta la mattina. E ci abbiamo le ossa pezzi, Arturo. Io posso immaginare, quando l'amore è tosto, Va bene, mi sta suonando il campanello, ci sentiamo già. E io, buonanotte, buon riposo. Avanti, B2. Io da casa mia, a Sassari. No, la ricezione non c'entra nulla. La ricezione è tutto buttato dall'antenna e dal punto dove si è situato. B2, segnati di M1000, comprati quello del retromatto. Ma ce l'hanno in tanti, tu fai su eBay, ci sono vendici di M1000, vendici tu, clicchi lì, guardi, negozi eBay e via, e lo compareggi. Poi l'antenna, te l'ho detto, PLC Minox, piccola ma sincera. Cosa c'ha il tubo 2001? No, quello lì non è... La tubo 2001 ce l'ho anche io a casa. E ti dirò che pompava forte la tubo 2001, non tenne un'unissima antenna, ma non penso che sia piazzata bene quella. Sicuramente non è a massa come dovrebbe essere. Ehi. Cosa? Ehi, vabbè. Sì, mi ascolti, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. E lo credo giallo. Ma non si sente mai con l'amplificazione, dico la verità. Certo, si sente, ma questo no. Metti al massimo a 10. Comincia a sentirti meglio. Ma io te l'ho detto. Vedi quelle cose che ti ho detto io non te ne metti. Spegni una volta. Queste cose che ti sto dando dopo aver provato tante antenne, tanti apparati e cose. Ti lascio che mi faccio un riposino e ci sentiamo magari più tardi. Ciao B2, ciao Piratore, ci sono in ascolto, che per un corretto esecutivo. Chi è? Sto guardando ancora, sto cercando contatti, però ci stiamo già muovendo. Pagato. Non te l'ho detto. Non ancora riuscito a parlare con nessuno, poi ho cercato il numero dell'ippodromo, ma quello che c'è su internet è... non è attivo. Capito. Chi è là? Avanti, chi è? Sul binario 10, cambia. E beh, Giuseppe. Oh, già. E come mai non sei con tuo figlio? Perché no, era con la febbre. Ah. E voi, tutto bene? Prima stanotte andiamo a vedere già di essere Sardinia. Ci sono di stendale sta... a coso. I Vivani. Vivani? Cazzo. Come oggi è l'ultimo giorno che riposo di sera, poi ricomincio di nuovo la tintunella. Lunedì tutto il giorno? No, lunedì a metà giornata. Perché lunedì io lavoro a metà giornata, non lavoro tutto il giorno, ma da martedì... Che bello. Io, ho capito già. Facciamo Ophelia. Ophelia. Buonasera. I morti si fanno sentire. Ma non posso la morto io. Ancora stavo lavorando, devo sei di là. Cappa. No, pensavo che tu... cioè, dopo che stavi lavorando ti riposavi di sera. Quando oggi? No, ma quel giorno mi sono sono riposato un sito perché ho fatto due lavori. Ho fatto la mattina con uno e la sera con l'altro, e quindi ho dovuto per forza riposarmi, almeno fino alle tre. Capito? Zappa, vabbè, hai fatto bene. Adesso c'ho da fare lunedì, mercoledì, giovedì e di sera. Venerdì e sabato finisco di là. Tutti al resto. Te lo credo dubbio. Guarda, guarda, fregando la fuori alla gente, guarda, questi lavori fa, questo qua. Vabbè, veramente preoccupati, devo restarmi a me. Non è stato nelle... L'esco, posto di due, se mi avesse qualcun altro. Dopo il lavoro che faccio sono libero di fare ciò che voglio. Me l'ha già detto quello, l'ho chiesto. Sforzandomi, Ali. Lo so, ci mancherebbe. Il tuo periodo buono, godicelo. Non è che ti giuri che capita. Se penso che qualche ragazza buona di lavoro, ma non ci credo. Mi dico, ma in chi? Tutti maschi, siamo tutti frusci, uno più dell'altro. E non sono amici tuoi. Non credo proprio, no. Non ho fatto quella cosa, io non ho dei problemi con Cianolo. Credevo che ci andavi bene, d'accordo con quei di io, Antonè. Cazzo, siete dello stesso partito. Io non credo, no, non credo proprio. Io non sono più uscito da galera, quindi sono tranquillo. Io tu qua, che sono dello stesso partito, tra gay ci capiscono. Ti scoppia tutto lì, ci ha messo le mani al tonello, adesso si incendia tutto. Piacere, anche perché tu provo da verde, quindi non c'è bisogno di una corretta, la moto già taglia sul gattone. Ma insomma, alla cosa del bucciolo e basta. Ma sei individuale, ragazzi, dito veloce. Ah, Luca, ballato. E ballati, hai modo del tutto. E ha, siamo tutti Luca. Ho dito veloce, è un po', ma sei individuale, a te la tua vizi. Grazie, caro, grazie. Sì, la bacia. Cioè, fa troppo caldo, non c'è da voi, ma è una faccia, è troppo caldo. Adesso prima va via il freddo, allora va il ghiaccio. Quando mi piace l'Italia per fresco. Io rientro direttamente giovedì, hai capito? Giovedì rientro di mattina. Sigaretti si diranno la musica, in sigaretti. fatto io, Claudio. Poi io lo fai con gli altri, ma per farti capire, che sono una miseria. Ti me la sedi, usci con te noi, Cla. Ti me la sedi. Mi sei in condizione. Claudio. A tante, Luigi. Se tu che stavi chiamando allora, poco fa. Stavi facendo basso la radio. È positivo perché ci sta i negozi da appena. Ah, ecco il problema. Luigi, forte e chiaro, ti ascolto, non c'è problema. Positivo, no, era quella scatoletta stavo provando. È chiaro, ti ascolto, il segnale è basso, però se ne dai più il segnale sicuramente aumenta anche la radio. Della modulazione, forte e chiaro, avanti gli anni. Ciao Luigi, mi hai sentito? Avanti, positivo, no, sono al minimo, più minimo di così non posso andare. Oh, non so, stavo mettendo a posto quella scatoletta, Claudio. Quella della dettagli che ti ho aperto io, va bene? Positivo, non lo so, vuole un po' regolata, però dovrebbe andar bene. Grande, vai, non c'è problema, beh, io ce l'avevo tutta manetta. Tu ce l'hai regolata per appena perché c'hai il negozio aperto, va anche troppo bene così. Non è effetto cattedrale, no? Assolutamente no. Stavo facendo solo... stavo provando questo apparatino che ho su a casa a vedere come se si abbinava, dai. A me vai bene, poi non so gli altri, vai benissimo, benissimo, alla grande. Ma io ascolto benissimo, come sono problemi. E a te, Gianni? Ma io l'ho già detto, è un bel lecco, da quando c'è la Claudio glielo ho detto. Va bene. Non c'è da dire niente. È chiaro, limpido, per qua. E non lo so la regolazione, al minimo M. Non lo so com'è, dai, se posso fare anche diverse cose, però l'ho girato così. Potrei fare anche diverse cose, però lo lascio così. Ma non dipende sempre dai gusti. Io per dire lo regolo così, a me sta benissimo. Magari c'è un altro che lo regola con più ripetizione, c'è quello che lo vuole in un'altra maniera. A me piace così, perché la regolazione che faccio io è questa. È positivo, perché faccio vedere come ce l'avevo prima, guarda, lo faccio solo vedere, come stavo facendo orecchio io. Oh, ce l'avevo così prima, guarda, regolata così a orecchio mio. Come mi ha riuscito, è una zia. Questo com'era? Sì, lascialo com'era, però già ho detto regolazione quella della voce tua, perché è grossa, va bene così come l'hai messa prima, è ottima. Poi quando tiri un po' più segnale vedrai che... sembra che c'è una radio modificata, però mi ha detto va bene quella scatoletta, non so se l'hanno modificata Pietro, ma tu mi hai detto che non è stata modificata, quindi, però va bene. Guarda se era questa la regolazione, no, è a minimo mio, gli ho messo quell'altro a fare là, capito, che hai visto tu. Se le luci chiude, non ha toccare più i dieci, va benissimo. No, è già chiusa, ho messo nel 48 e mi ho detto che era una bomba e allora l'ho chiusa subito, e adesso stavo provando qua e si affinava qua. Vabbè, sta nel 48 io ce l'avevo attaccata, senza aprirlo, senza passare la calamita nera, una bomba, vabbè che era il mio, c'era il doppio modulatore, quindi spingeva un po', però va molto bene, non so, Luca come l'ascolti a Gigi Vulcano. Sicuramente tirerà scirocco, mi sa che piove. te la spengo. Adesso l'ho spenta, ha cambiato molto la radio, l'ha spenta accesa. Microfono normale, ma va bene lo stesso, spingere parecchio quel microfono. Tenendo accesa c'hai l'eco in sottofondo, molto bello, non è spascia orecchie, va bene, tipo quello che c'ha Gianni, però il tuo rimane un po' più grosso. Perché io ce l'ho più grossa, tu lo sai, la voce stiamo parlando, eh. La voce ce l'ho più grossa, già. E vabbè. C'era quello di Cerva, vabbè, allora di che non si possono dire certe cose. No, io ho corretto subito sia che intratende, sia che qualcuno intendesse altro, ho corretto, la voce è più grossa, ed è la verità, la voce ce l'ho più grossa che della tua. E se tu guarda a Claudio, qualsiasi microfono gli dai in mano, anche se non amplificata c'è la voce sua, sembra amplificata quella vociona, capito? E così anche io quando parlo normale, con gli apparati normali mi fa la voce, sembra che sia amplificata, ma non è amplificata perché è un microfono di quei CPE, quelli palmari come li chiamate voi. Ma te, tu che la tengo? Io ho qualche capsula di quelle di quelle di Tamer. Io ce l'ho, io sto andando col microfono normale, mi dici, sto andando con l'MC50, quindi quella del Logaro. Ah, cosa hai detto? Ma non ce la devo con Bussi. Io sto andando col microfono normale, con l'MC50 e la tavola ormai è normale, no, non c'è bisogno, capito? Già va bene, sto usando la FT950 con l'MC50. Ce n'è, ne avanza, ce n'è, ne avanza. Tanto. La fai girare tutti. Non c'è problema. Già, va bene. Gianni, ma come se ti sei quando lavoravamo ieri sera? Me l'ho detto questa a Claudio, non me lo ricordo. Quanto era capo? Lo ricordo, 300 euro, possibile. Cosa siete lì? Te l'avevo detto, tu me ne sei, li ho avuti tutti quanti, li ho tutti dati. Io non l'avevo con Mario Masse, gli aveva pulito quantomeno. E quel prezzo, prezzo suo. No, io mi sono aggiudicato la linea geloso a mezzanotte 12 minuti. Aggiudicato. Molto, molto bello, eh. È tipo la linea, te l'ho detto, la linea Drake. Quella della geloso, sono tre pezzi, molto bella, e in più gli ho mandato un'email, quando è finita l'asta mi ha risposto stamattina, mi ha detto che mi manda anche il microfono originale, che praticamente è come l'MD200, a piantone verticale, non so se l'hai mai visto la volta quel microfono, è come lì, io ho l'MD100 che è come l'MC60, no? Invece l'MD200 della geloso, tipo l'MD200 è praticamente del colore della radio, però è a piantone, come quelli che parlano, non so se hai mai visto, RTL, insomma, quei microfoni da studio, verticale. E a coso verticale, capito? Non è come l'MD60, è a coso verticale, a piantone verticale, con la palla grande, rettangolare, non rotonda. Avevi ragione, hai visto bene delle previsioni, domani ha messo acqua, domenica 29, acqua. Sì, ma si vede qua, io sono in alto, e si vede, è tutto grigio, è andato via il sole, c'è questo vento caldo che sicuramente porta acqua, perché è così, capito? È normale. Questi primi venti così di ribeggio, venti di terra, venti da nord, portano sempre acqua. E vabbè, pazienza. Ce ne rimarremo a casa e sino a tutti. E anche lunedì ha messo acqua, anche lunedì. E che bella. No, lunedì già mi va bene, che sto lavorando. Se piove non faccio un cacchio, e sino a tutti. Avevamo programmato qualche lavoro per chi sta, vuol dire che iniziamo a programmare le figlie. Oh, Giuseppe. Dimmi, Antonai. Ascolta, la questione della giornaliera, come cavolo è? Abbiamo fatto col Fulvio e la volta non ho capito un tubo. Ci sono scritti i giorni, da 1 a 31. Ma quando c'è il mese, io ancora oggi ho preso l'ultame. Quando ci mettevo non lo spieghi. Scappa. È facile, mi ha detto lei con le rapportine, è facile. Deve segnare, allora, l'entrata, quando entri la mattina, fai le tre ore sino a mezzogiorno e scrivi 12, orario di uscita, hai capito? 12, e metti la firma. E a fianco c'è scritto, metti le tre ore, hai capito? Quello già l'ho capito anch'io, non sono tonto. Però il problema è che io sono stato 24, 27 e dopodiché cosa scrivo? C'è scritto dal 1 al 31, cosa scrivo dopo maggio? Devo andare a fare un atto di crisi, cosa devo fare? Allora, ci vuole maggio, no, aprile devi consegnarglielo adesso, massimo lunedì glielo devi consegnare, se no non ti pagano, non ti danno i soldi del mese che hai lavorato. Quelli mi hanno già dati di aprile. E adesso ti vuole dare il soldo di maggio, alla fine metti il coso del rapportino 30, tu fai fino al 30 perché l'uno, il 30, lunedì dipende dal giorno che non lavori, fai, il 2 non si lavora e si riprende, io riprendo giovedì perché il contratto ce l'ho martedì, giovedì e venerdì, hai capito a te? È appunto per quello che sto dicendo, io siccome lunedì non ci devo fare un accidente, io non dico che devo fare, andare a consegnare quel foglio all'assistenza sociale per fare due giorni o cosa devo fare, perché sono due giorni lavorativi in pratica, 24 e 27, e poi cosa mi danno un altro foglio sempre che devo compilare dal, non da primo maggio, mi sembra che da... Se mi ricordo i giorni, la verità. Facciamo due o tre là, da che maggio in poi. Eia, Antonello, spostati un altro canale, per favore. Eia, tu hai due tu, facciamo su 21, va? Eia, scappa. Scusate i colleghi del canale 10. Eia, non c'è problema, dimmi, Sandro. Dentro un cavo, divisa dal polo caldo col polo freddo, quindi... fondo scala qui a Itiri, Come? Fondo scala qui a Itiri, stai arrivando. Sì, fondo scala, tu sei 9:30, figurati. Non so dove sei, Natali, buonasera, non è Sandro che c'ha problemi, Sandro da Porto Torres che c'ha problemi. Ho capito, no, sono qua per fare una commissione, sono all'ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale di Sola. Di 9:30, Natali, a Itiri, capito? Quindi immaginati quanto stai arrivando forte qua. 9:30. Vabbè, vai, sono qua. Ok, Claudio, va bene, salutoni, dai, sono qua in ascolto. Claudio, io come sto arrivando adesso, sono in BM, sono qua, c'è la zona di Lombardo. 9:20 sei, Giuseppe, 9:20, no, ma arrivate tutte bene qua, non c'è problema, ecco perché intanto io con la KF vi do i segnali giusti, capito, se passo con la 48 non è che vi riposso là. Con la KF, ecco, l'850 sta arrivando tutti, cioè con 950 sta arrivando tutti benissimo, tutti alla grande, segnali ottimi. Io sto usando l'MC50, che è il microfono normale, con l'FT950. Va bene, dai, mi devo allontanare un attimino, che mi preparo perché devo andare al ghiero se non si fa tardi. Già vedo più lungo, riprendi se ci sei, insomma, fate girare la ruota, un attimino di querix per me, riprendo subito. Buon tutto, dai, buona passeggiata, ci ascoltiamo domani, dai, fondo, cambio. Giuseppe, mi ascolti a me? Yeah. capace di fare male, già ci sono le carte bollate sempre, no? Signori, io non vi prendo più, vi auguro a tutti la più cordiale buonasera, buon fine sabato, che io sto uscendo e quindi metto tutto a zero qua, non si sa mai che ci sia qualche sorpresa, non so che ora rientro, quindi non mi fido. Buon sabato a tutti e buon fine settimana, insomma, Claudio Spargliero, QRT. Ciao Gigi, Giuseppe, Natalino, che guarisce, Gianni, Luca, Gigi Vulcano, Massimiliano Bulldog. Buonasera a tutti, QRTango per me. Allora riprendo io, saluto a Claudio, gli auguro buon divertimento, dai, saluto anche gli altri che io sto chiudendo, che devo fare alcune cose. Dai, ci sentiamo alle prossimine, saluto a tutti, buon continuo con SEO e buonasera. Ciao Claudio, ciao Gianni. Ok, dai. Ciao Gianni. Dai, anche io faccio un po' di cuore. Ciao anche a Gianni, l'ho salutato, a mio parente Leoncino, non so molto, dai. Salutoni a tutti. A cosa riesce, ma è come i nomi. Si accoppia, è a posto. vabbè. Meglio così, meglio così. No, ma sono un pelle. Aspetta, quando arrivo a casa, lo vediamo un po'. Sì? Ok, ok, vabbè. Non ci sono problemi per quello. Cappa. Comunque, non è esploso, quindi va bene. Io pensavo che esploveva tutto, invece niente. Perfetto, perfetto. Una bomba. Una bomboletta, Una bomboletta, eh. Andà bene, andà bene. Pic positivi c'ho io. Giuseppe vicino a me, poco fa, aspetta che attacco quella. la cosa, ecco, che ho sistemato l'altro giorno, la verità non l'ho provato, ho detto, se scoppia scoppiamo tutti e due, invece niente, è perfetto, è una bomba, un demonio, è meglio così. Sta, sta, adesso sono al cuore immacolato, Antonetti. Meglio così, ci arrivi bene. Caffa, avanti Giuseppe. E positivo, dai, io vi sto ascoltando perché sto facendo delle saldaturine e dai, riprendete voi, io se tutto va bene 5 minuti ho terminato. Caffa, buona saldatura, avanti Antonio. Eia, buona saldatura allora, a dopo c'è problema per quella. Si è arrivata autovoce, sì, no. Ah, cos'è Antonio? Non ti pensavo che mi vado già la voce. No, sono qua. No, andavo per andare a casa, qua nel fondo del campetto. Caprolina, sono. Ah, ok, già va bene. Sei già vicino a casa prima là, nel campetto di Almonte. Caffa. Ci andrà bene. Caffa di rogerlo. A voglia, a voglia. Sto parlando lineare, dammi un controllo. aspetta un secondo che lo conto, ecco. Come sto uscendo con questo BV131? Dammi un po' il controllo, poi un secondo break. Cazzo, è una volta, è cosa, 2 ore, 2 ore e mezzo, dai, esagerando, la roba giusta. Cappa, giustamente, tu. Bisogna arrangiarci, hai capito, bisogna darci da fare, mancanza, bisogna fare anche quello. Cappa, già non sai la situazione, non so se lo sai qua la situazione, è che mia madre non è che sia tanto bene, che faccio io, oramai sono diventato esperto. Cappa, come ci sente questo microfono, Matu? Bene? Benissimo. Perché? Cosa l'hai già fatto? L'ho piazzato l'Alan F10, capito? L'F10 l'ho piazzato in questo baracchino qua e gli ho comprato lo spinotto e Antonello me l'ha saldato tutto quanto e sto usando quello per adesso. È buono, te lo conosco, rimane un po' lungo, rimane. E c'ha il capo morbido qua, è una cosa, è una bijou, cazzo, lo tiri, cazzo, sale nel letto, tutto quanto, è comodissimo. E cazzo, Giulia, sì, come... stavo dicendo, già va bene già, e l'antenna come sta andando? Tutto ok, dopo ho fatto quel lavoro là, messo quella questione là e sta rendendo alla grande. L'hai cercato di isolarlo, vero? No, gli ho messo la vasellina, tutto quanto, e poi gliel'ho isolato, hai capito? Gli ho costruito un cappuccio per non bagnarsi, tutto quanto, ho fatto come Dio comanda, prima la vasellina, poi il cappuccio e isolato tutto quanto, hai capito? Deve cercare in modo, cazzo, che non faccia... cioè il cappuccio deve cercare in modo che non li faccio da bicchiere, perché quando piove già lo sai. Già lo so, ma gli ho fatto, è un modo, gli ho fatto un cappuccio, un modo particolare, il giusto il coso del PL, è sotto, alla fine, stretto, capito, dopo l'acqua non c'entra, capito? Peccato. Bisogna farli bene il lavoro, il problema era quello, c'è poco da fare, in certe parti dove entra acqua rompe le palle, c'è poco da fare. Cappa, giustamente, l'acqua è quello lì, capito? E tuo padre come sta? Bene? Sta bene, sta pianino. Già se la cava anche lui. Stavo dicendo, esagerare quanto ne hai? Le Ferrari ne ho 1 e 1, controllato stasera 1 e 1. E allora stai facendo per una bomba, guarda. Cappa. Ma mi sembrava strano, cazzo. Il lavoro è fatto bene, chi dà la ragione. Giannani ti fa pensare, no? A qualcuno che viene di Cerrotta. Si è rotta a pagare la piazzata, non lo so, guarda. Non lo so, cosa vuoi dica? Dove c'è il di Mauro, mi serve le punte, c'è Brande, andiamo per essa, sta per fare questo, e va la ringo, ma invece. Chiappa. Dipende sempre. La monta dipende sempre. Ti cappa. Oi. Cappa. Veloci no? Via, dimmi a tu. Ah, già ci sei. Sì, già ci sono. Cappa. Oi. Bel lavoro trovato. Lavoro, niente, nulla, sto facendo quel lavoro là che dalla scuola e nulla di basta, nulla di particolare. Ma già ti pagano. Cos'è? No, già ti pagano. Vabbè, ogni mese al 16 ci sono 250 euro. Sono tanti, no? So che non sono tanti. Non sono tanti, però ci accontentiamo anche di quello. Poco a poco, però, sempre tirano avanti. Va bene. E cosa vuoi fa? È un casino, ecco. Se hai, ti li pigliano, se non hai, se resti così. Scappa. Sentito tutto il casino che sta succedendo. Sì, già l'ho sentito. Dai, dai, cazzo. Beh, diremo un gatta che si muova qualcosa, cazzo. Se no qua è un casino più serio, guarda. Scappa. C'è un break, ti sento un passo di modulazione, avanti. Vai, alza. Chi sei? Che no, non ti ho riconosciuto. Zio, chi è? Buonasera, Fabrizio. Giuseppe da questa terra. giusto, è lui, vero? K. Possibile. Avanti. Avanti, Fabri. Ciao, Giuseppe, ben sentito. Ben sentito. Ascolta, non mi ascolti tu. Guarda, Fabri, se devo dirti la verità, la radio è solo da incorniciare. Di Santiago sì, 9 più 40, bello sparato. Tutto K, tutto Roger, radio pulitissima, voce bella, squillante, ti ripeto, come che sei qui a fianco a me. Ho capito. Io perché sapevo usare un pubblico, ma il radio l'ho messo a posto, perché facendo i pazzi che qua a Firenze, come siamo tutti qua, la tua squadra di salvatura, si sono come le cose vecchiette, ecco, siamo fatto prima a curarle, e come ho toccato i limiti, non è come prima, volevo sapere come usciva, infatti volevo vedere se c'era Claudio, perché Claudio la memorizza meglio, ma soprattutto io conosco i segnali di Claudio, volevo fare un controllo con Claudio, ma il mare oggi non c'è, non ho sentito tutto il giorno. Oggi l'ho sentito, questa sera l'ho sentito, ma stasera dovrebbe essere in tournée. Ecco perché. Leonci. Fabrizio. Dammi un controllo di segnale, come sto scendo? Nulla, sto pompando, non ho toccato niente. Ho messo a posto il lineare stasera e sto usando quello. Allora sono invece i limiti a trattare, guarda, ho lavorato sulla scheda filtri, non vorrei che una volta che ho lavorato sulla scheda filtri, a questo fatto ci ho toccato, siamo riparati lo smitter. Perché fa lo scala magari, no? Così sono liscio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e così e siamo attaccato, guarda un po'. Sì, veramente, il segnale più alto qua, quindi capita, perché saranno tutti un po' più bassi, devo controllare lo smith. Attenzione Fabrizio, avanti. 9.20 normale e 9.30, quasi 9.35 qua, dai i pomponi. Quindi anche qua sì, già funziona bene la roba. Ascolta, la mia radio come la senti? Bene, 5 perfetta. A bomba. Meglio di un'altra volta la retta. Qui stanno facendo bene, oggi ci ho visto, non ho imparato, era ora. Adesso mi tocca l'altro. Dato un casino la retta, Bigu 2001. C'è poca roba tappata. Peggio di quella parte che si sono tu, guarda. Ho capito. Quindi la radio mi ci metto facendo bene, non è che andare a fare un controllo con la... che c'è anche il segnale, non ho quello strumento per vedere se sta andando bene. Sì, a volte sta andando bene. D'accordo, Giuseppe, da te come arrivo Giuseppe? L'altro, Leoncino. Eia, mi sta arrivando 9.10 a poco, a pochi più positivi, capito? Quasi 9.30, dai. Aspetta, da così che sono attaccato, fa così che sono attaccato, guarda un po'. Allora, quando sei staccato mi arrivi 9.10, quando attacchi 9.30 quasi. Ok, allora già va bene, allora, domani lo prendo in casa tua, vediamo come pompa questa geccia. Allora sei tranquillo, esci come si deve. Zappa. Pompo. Dimmi. Ma almeno un chilo batte, lo pompa quell'attrezzo. No, questo è piccolino, c'ho. L'altro sì che... siete sempre fatti togli fuori subito. L'altro adesso il sistema lo metto a posto perché sono in guerra, devo fare... c'ho una puntiglia con un CB, l'altra volta mi ha salvato un altro, mi ha fatto lo passo, e quindi bisogna trovare come una volta, quando era con quelli di Ranghiero, che non la fanno schiattare in tutti i posti. Adesso ho messo 100 in tasca, fatto male nella pompa e così lo faccio schiattare. La lunedì, quando entra lo soprammuto, ogni giorno che passa lo soprammuto lo faccio schiattare, per un mese e mezzo, quello che è. Solo 2 mesi, 3 mesi, quello che è. Vediamo un pochettino. Adesso bisogna far trovare come una volta, dato che i giovani potevano parlare male i vecchi, adesso i vecchi non parlano male i giovani. Ecco, BV 2001 non passa, lo dico io. Sto capendo anche antenna, te lo sto dicendo. Ho preso la Super LEM, appena viva la ritiro, ve la piazzo e ti faccio vedere che saranno cacchi suoi. Ascolta Antonio, dammi un controllito di questa radio, sia di radio che segnale, fai la gentilezza. 926. K. Per essere di Solicio già va bene. Ah, perché guarda, io stavo usando il 121 di Benito, l'ho sistemato. C'è il BV 2001 qui, nel MK3, da sistemare adesso. Adesso lo sistemo lunedì o martedì. Figurati, ho sistemato questo, adesso sistemo anche l'altra. K di positivo. Siccome non sono bugiardo, allora questo era lì già attaccato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 131, e questo da liscio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre con 2009, faccio sentire da GB 4 turni, così almeno non succedono balle, allora questo è 1, il passaggio da liscio, e questo attaccato. È positivo, no, me ne accorgo dallo smitter quando attacchi e stacchi. Ma cosa ha interruttore grande, Antonio? Perché sente proprio lo scatto di netto? E c'è il punto di su, vicino, un arancione. C'è grande, non so se ha 2 o 3, non lo ricordo adesso. No, va bene, proprio qua nello smitter mi accorgo quando attacchi e sale di un'attacca e va bene, va bene. D'accordo, avanti Giuseppe. Ehi, Antonio, ecco. È una bella bestia quella lì, è una bella bestia, Antonello, è una bella bestia e... E qua nella posizione che sono io è un po' l'occhio, avviene, arriverò, vediamo, già che arrivo così 9:20, figurati se attacco quella bestia lì, quanto devo arrivare? Arriva 9:30 penso. Cappa. Mondoli. Dimmi. E tanto, come ti arrivo da te? Fai un passaggio. Attenzione bombolino, 1, 2, 3, 4, 5, cappa. È abbastanza forte, sì. Un attimino, Giuseppe. Vai tranquillo, se la riprenda Leoncino, che io intanto vado a darmi una sciacquattina alle zampe. Cappa, eia, eia Giuseppe. Avanti, pomponio. Eia, sono qua, dimmi. E dopo cosa la vostra cosa? Ci si mette il pentolino dell'uovo, frigo nuovo, frigo. Ti giuro, guarda. Aspetta che sono stanco. Me lo raffredda un pochettino. Gappa. Cazzo sul liscio, come l'olio. Per quello l'ha passato il segnale. Arrivi 9:10, dai qua. Così ti faccio andare bene. Aspetta l'altro, lunedì, vediamo. Oh raga, io stacco un attimino, però già rimango in ascolto, dai. Sono arrivato tardi, mi sono messo a fare questa roba e io ancora non ho cenato. Datemi 10 minuti. Ah, eccomi. D'accordo, ciao Giuseppe, ci sentiamo le prossime. Dunque dite buon tutto allora. Ma è andato buon morire, è andato Giuseppe, è andato a fare carica e riprende fra un po', dai. Gappa, gappa, non problema. Ok. E come che arriva lì? Antonello. Non è forte. 9:25. Giuseppe, lo stesso che era un bel forte, 9:30. chiappa, quanti 9.30? C'ho quello digitale, c'ho. Hai capito? Quando attacca arriva più oltre i 9.25 arriva. Chiappa, va bene. E io forse gli arrivo a Toledo, sono... Io sono del Burino. Siamo su, Antone, quanto ti arriva a Monburino lì? Scusami, non ho distratto, sto aspettando... Dimmi. Ho detto, quanto ti arriva a Monburino lì a casa tua? Prova un po', Anto. 2, 3, prova. Santiago 5 e 6, con questo baracchino. Ah, no, è poco mi vuole male quel baracchino tuo, ok? E cosa di politica, così è fatto. E vabbè, dai. Ma veramente non si parla di te, Alviato. Questo è fatto così, cosa vuoi dire, Aldo? Ma non ti stavo dicendo, ma la Superman, veramente la Superman mi dice ordinato, proprio. Sì, sono in guerra e ho ordinato la Superman e bevuto 1.001 adesso. L'altra notte mi ha girato veramente le balle di farmi sovrammodulare da un imbecille, quindi bisogna fargli parlare come se ritorna bambini quando eravamo agli anni 80. Capito? Così almeno ti faccio vedere chi è il numero 2. E te lo so proprio dove voglio, quando voglio. Adesso mi sono tornato le balle. Adesso mi diverto. Chiamma, ma se sentirti vuole l'altro, vuole un chilo, ma se... Visto, pompo, vuole 10 grano, 4, 5, 6 valvole, così facci metterti bene. Qua dentro in guerra non me frega niente. Non c'è nulla da fare. Lo facevo una volta, adesso lo faccio di nuovo. Già l'ho fatto una volta. Ha fatto schiettare a uno. Adesso tocca al secondo. Adesso basta. Mi tocca di tornare a nuovo di parecchi anni, nel 47. Quando ho fatto schiettare qualcuno, mi sembra 26 o 30. Ha attaccato 600 watt, non sono voluto lavorare a avere il zitto. Quindi... Adesso torno come prima, bisogna fare così a un certo punto, così vi piglio la soddisfazione. Ripigliatela, Giuseppe. Ehi, Antone, guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ha attaccato l'M più 5 adesso. Esce perfetto, 9, 10, segnale, la 5, 6, con il termine 9. K, e a te Bomboli com'è ti arrivo? Con l'M più 5. Cazzo, se sei pronto c'è il segnale, mica mi deve arrivare. Devo sentire meglio. Come lo senti? Meglio? Questo lo sento benissimo, lo sento. Di segnale sei forte qua, arrivi più forte di buon posto. Vabbè, siamo vicini. Vabbè, linea d'aria sì, però... E ho cambiato la batteria in questo l'MP5 e ho messo una 9 volt alcalina, capito? Dunque, vedi il rendimento come sta funzionando. Cambio! K, funziona benissimo. E K, vabbè. Diciamo anche l'altro, diciamo... Già se la cava, però ci bisogna controllare gli spinotti, che bisogna fare le saldature nuovamente, è capito, nuovamente, perché a volte manca di radio. E cazzo, è un bucaretto cassecato, ma vabbè, dai, puttitini, usati quello che va bene. Ciucchicciù. C'è nato, Antonè? Che voglia, ha mangiato poco fa. E anch'io, ti ho detto, mi sono fatto mezzo piatto di gnocchetti e basta. Non mangio ravioli, io a pranzo, poi c'ho spezzatino, e poi ho mangiato c'ho di quelle mattoncini di pesce con patatine. Cazzo, non ti tratti male, no? Beh, c'ho appetito quando lavoro, mi già lo sai, bisogna bevo l'acqua cosa vuoi di più? Mi viene l'appetito, quando invece bevi la birra ti gonfia, lo sai, no? La personale è ancora incazzata, No, tranquilla. Stavo guardando cosa? I filmati di cosa? Di... come si dice amici, stavo guardando. Ah, mamma mia. Oppure... hai visto bene la stampata che ha preso, cazzo, con l'amante? La bestemmiata, ma senz'altro. Ti devo fare una cosa. Cappa, vai, vai. Oh, già. Ciupicciù. Sono i cubili a casa tua. Cos'è, gatto? Allo basso. Non ho capito. Me la copi, quello smitter secco. Allora, mi sta arrivando 9:20 qua, hai capito? 9:20. E quando arrivo? Antonello ti passa però con Burie, Antonello ti passa, arriva 9:30 qua, eh. Oh, Antonello, se non posso attaccare nulla, vado, no. Sono cavoli a mare. Bevuccio il 31, c'è per nessuno, c'è ma quello, già funziona, ha visto Giuseppe. Abbiamo fatto 13 Giuseppe, abbiamo fatto 13 stasera, visto vai? Passa bombolino vicino a te. Cappa. A te però bisogna, se c'hai due piedi perché bisogna fare nuovamente lo spettone, io non ne ho, Quelli là ci sono crepa, li ho dovuti utilizzare quei due per fare lo spettone. Non ti preoccupare, scusa Antonio, stavo facendo la prova. Niente di personale, stavo facendo solamente la prova, non ti offendere. Però già funziona, visto che stavo facendo. Lui già pompa Gilberto, l'ho messo a posto. Così attaccato e così liscio. Già va bene. Adesso mi tocca mettere a posto il bimbo 2001. E sono tranquillo, 600 tondi tondi. Ma no, vabbè, già non mi adiro, non ti preoccupare un po'. No, è che io scherzo poco, hai capito? Già non mi adiro, non me ne frega niente. Io c'ho un altrimento, dico, per non ti posso rompere le palle. Chiappa. E se pure la macchina esce, e più di quello, cioè, siamo di punto la potenza è nato, è quella la ragione. Non ti preoccupare, già lo so, non ti preoccupare per quello. C'è questa scusa perché se stiamo commentando le cose, perché è un gioco. Già va bene, adesso invece... mi vendico con quello che mi è salvato l'altra notte, adesso sono in guerra con quello lì, quindi d'ora in poi, non per un mese, ma per 3 mesi si deve aspettare. Ogni volta che entra lo si fa un nuovo, così impara. Vediamo se gli piace anche a lui. Tanto che lo faccio scattare con 100 watt, che arrivo così forte di alta voce, figurati. Già va bene, sono contento, guarda. Quanto è certo se la cosa cambia. Cappa, vabbè. Non ti preoccupare, dai. Si preoccupa, ma... anzi, mi ricordo io perché è un gioco. Mi tocca tornare ai tempi antichi, capito? Quindi, mi piace, guarda, veramente. Ripia Giuseppe. Cappa, sì. Io lasciamo perdere Antonella, lasciamo perdere. Basta ignorarlo e dunque, e fai più quella figura. E dunque, il discorso è quello l'altro detto. Basta ignorarlo quando rifai tac e lui è sistemato. Non si sa, non scopre neanche di chi è chi stiamo parlando e chi non stiamo parlando. Quando attacca lui, gli fai quel giochetto là e manco se l'aspetta. Ecco, per quello. Mi diverto, quando entra lui, da solo a modo mi diverto. Ogni giorno che entra ce l'ha per 3-4 mesi, 5 mesi, quello che è. per 2000 euro, così mi diverto. Ma il gatto ce l'ho qua a me. Vediamo che schiazza prima. Appa, riprendi. Bomboni. Che schiaffa. Ehi, pure con quell'antenna già, già ti puoi rompere le palle. Boh. Ma, dammi una cucina, dammi. Tanto per la zona che devo sovramodulare, quando c'è il momento, poi mi vendico. Troppo cazzo, c'è me, lo senti. Cos'è, Antonai? C'è popolazione. Non bello, non bello, c'è me. Adesso proviamo se c'è qualche dia che sa fare, eh? Vediamo come funziona. Tappa. Abbiamo lasciato il parcheggio, Giuseppe è tornato. Giuseppe è tornato, ci sei? Buonasera. Avanti. Tutti, B2 e Porto Torres, buonasera. Passa, non sono i B2. Buonasera a tutti, allora che si dice? Bianco per me, dai. Ma buonasera B2, da questa parte stazione Leoncino che ti super saluta con la buonasera, cambio. Ah, buonasera, buonasera a todos. E allora? E allora B2, cosa mi racconti? Sì, a Porto Torres, cambio. In giro a Porto Torres, a lungomare. Con B2. Ah, dimmi tutto. Come ti arrivo io? Come sto arrivando a Porto Torres? Dammi il controllo un po'. C'è, ma la radio fa schifo, per me. Molto cuffa. Cuffa. Ancora cuffa, guarda un po'. Ah, tieni presente che sono in mezzo ai palazzi, Sono in mezzo ai palazzi a Porto Torres, adesso sono entrato poco fa a lungomare, adesso sono entrato in mezzo ai palazzi. Ah, ok, bene, com'è? Buona, com'è il segnale? 5, 7, com'è? Cilli, oscilli, capito? Un segnale preciso non te lo posso dare perché ti ripeto, sono in movimento in mezzo ai palazzi a Porto Torres. Già va bene, va. Ok, già va bene, adesso sono liscio. La radio è chiara, è bella limpida. Hai visto, con 15 watt si pompa, Giuseppe. Sono con il 2009, figurati. 1, 2, 3. 1, 2, 3, radio è chiara. Cappa, beh, Antone, lo sai, no? Eia, e a me che non ne ricevi il B2 lì a tango, cambio. È grande, perfetto. Perfetto, sembra che sei qui con me in cabina. Cappa, non senti nessun disturbo, nessuna fischi, no, niente, no. Niente, è tutto perfetto. Va bene ragazzi, dai, è la mia radio con me, ho cambiato microfono. Che cappa. Ok, grazie, dai, che sono arrivato, me ne vado tutto qua da mangiarmi una pizza. Ci sentiamo magari più tardi, ciao ragazzi. Ciao, alla prossima, ciao. Buon tutto, dai, buon divertimento. Ce ne risentiamo tutte alle prossime, cambio. Ah, buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao B2, ciao ciao, avanti Antone. Ciao B2, alle prossime, ci sentiamo, stammi bene. Avanti un altro. Aspetta, che c'è rimasto? Adesso non mi ricordo più. Cos'è Antone? Aspetta, che è rimasto, cioè, non mi ricordo più adesso, il nome attivo. Diciamo io e tu, ci dovrebbe essere Bombolino, se è rientrato. Dimmi caro. Per caso a Capri 2 oggi? No, la verità non ho sentito ancora. niente, va bene, vi lascio 10 minuti, massimo un quarto d'ora, se ci siete per riattacco di nuovo. Sentiamo tra poco, va bene, buon proseguimento, vi ascolto. Aspetta, dammi controllo, come sto uscendo, va così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va così, 1, 3, 4, 5, 6. Primo passaggio, Santiago 9, quasi 10, ma ci siamo, Santiago 9 più 10, radio 5, quando fai quel tic, fai a 9 più 30, che non è poco, qua a Ossilandia. Ok, sistemato l'apparecchio, sono contento, ti ringrazio caro. Eia, sentiamo dopo allora, ciao, a dopo. Mi sono risparito io. Tu sei preso la barattina, ho detto, boh, questa è sparita la circolazione. No, tu che mi fai sentire, pochi giorni fa ero su 10, poi sto praticando molto su 4, su 5 da coso, dal gruppo di Gianni di Chiaramonti. No, già ci sono, vai tranquillo che già ci sono. Ah, per quello, no, io non è che sono solo 27, lo sai. Io vado anche in quando 5 mi diverto a parlare con Milano, cosa del genere, cioè la scazziano ogni tanto. Ecco perché. Ma pensavo che mi sparito, ti offeso magari. Boh. E poi tanto che sei dimettessi, avevi detto, boh, questo è già detto, si è incazzato, si è offeso. E invece meglio così, siamo tranquillo là. Senti che cosa mi devo offendere, ma non ti preoccupare, no, non sono di qui, lei è arrasse. Anche io qualche ascolto lo stavo facendo, pure ripeto, pochi giorni fa ero con W Room, e poi sul 4, sul 5, quando c'è Gianni, anche fino alle 3 del mattino, come sabato scorso, può darsi anche stanotte, sempre con gli orari lì sto facendo, dai, no, comunque ci sono sempre, non si abbandona diciamo una passione come la radio, dai, non c'è problema, già sono sempre in girella. Va bene, ti ringrazio, dai, scusate agli altri, siamo fatto un pochettino alle lunghe, ci sentiamo dopo se ci siete. Io d'accordo, a dopo, avanti, ci sentiamo dopo, avanti Giuseppe. Ciao Antonello, Ossilandia, comunque buonasera. Ciao Trondio, buonasera anche a te. Capo Trondione, perché scopeggia? Trondione sei mio, Giorgi. Dimmi caro. No, la metà no, la recensione sì, ma il sistema no. La recensione rimane sempre uguale. Te lo sto dicendo, caro. Se ti dico così vuol dire che è vero. Ma cosa gli hai fatto? L'hai sistemata l'altro giorno, boh, non è possibile. Che la matta va a essere lì tutta. Boh. Ma cos'è? C'è così come Giuseppe ce l'è, non è possibile, che Giuseppe mentre andrà a lavoro una settimana non funziona più. Ma cosa c'hai? Boh, di serpenti vicino, cosa c'hai? Come ci vedi tu me? Un fatto che ne fa un tanto. Noi facciamo là. Un fatto che ritorna. E la questione è, Antonè, ho del capo, che il capo deve essere in corto. Bisogna controllare quella questione là, il PL, quella zona lì, capito? Tutto il rispetto da me era dal PL. Poi bisogna vedere come il capo, hai capito? Metto tutto a nuovo. Non lo so, sa. Comunque buonasera. Non so da dirti, Sandro. Non lo so. Guarda, per confortarti, se vuoi ti do la mia ringo e usi quella. Grazie. posto e non dà nessun problema, visto è come facevo io, bella, nuova, nuova, non dà nessun problema. Ci metteranno a posto con il tempo. D'accordo, ciao, ci sentiamo. Si è scontrato proprio qua come Sant'Enneva. Come Giuseppe fa uguale, sì. E chi è che ha problemi d'antenne adesso, Bonfurio? Molto poco si ha problemi d'antenne. C'è un'antenna nuova, nuova, sistemata, ha problemi saldo, chissà cosa diavolo è successo. Infatti ho sentito da fuori, ha detto mi sembra Sandro quella la voce, ma è basso basso. Ma qua ci arriva bene Santiago 9, di qua, perlomeno. Poi, qui ce l'avevo Santiago 5. Quel 9, quel 9. Leoncino. Dimmi, sono qua, sono qua. È rientrato Giuseppe Tornado? Sì, è rientrato, è rientrato. E adesso come mi senti, Giuseppe, con questo microfono della ZG M+5, cambio? Qui tutto positivo, radio Super 5. Appa. Appa, gappa, gappa. Se vi dà fastidio il bip lo tolgo, Non c'è bisogno di preoccupare. Vuoi lasciare, non c'è. Per me, io ti sento abbastanza bene. Positivo, positivo, già va bene, va. Cavolo, va andato fuori, c'è un vento, cro. Vento, come dice il buon Antonello Pomponio, vento di cornuti. Mi assorbe tutti. Ma l'impressione che se piova stanotte, piova a terra, perché non lo so, mi pare che sia vento africano questo. E poi è caldo, il bello è quello. Più bello a me così facciamo il 12.000 in mattina. Cuciniamo le bistecche di maiale. Cazzo, vero, mi caso una bella arrostita. Se volete mi prendo l'ombrello e vado al supermercato, mi piglio un po' di pesce, se ce n'è, e me lo cucino alla brace. Non c'è cosa più sana, mi, se ti fidi. Appunto per quello. Un pochino di bistecche, Antone, un pochino di pancetta, quattro melanzane belle imbottite di olio, aglio, peperoncino, e mamma mia. Buone, buone, insomma. Tu cosa dici, Giuseppe? Ci vorrebbe una piccola arrostita adesso tra noi, tra gli amici, e si potrebbe anche organizzare, non ce n'è problema, però il tempo è quello che è. Se non è in casa si potrebbe fare in campagna, però io campagna non ne ho, dunque bisogna cercare la campagna degli altri. E per cui non so proprio, già lo sai. C'è campagna mia, quando sei mezzo cotto, sei di la fronte, sei più fresco, già lo sai. Ti posso portare anche la birra qua da sotto, alle frescate. E la mazza delle vaglia, se non metti a posto quel ponticello, tu cazzo, te lo do io il tanto che mi fa cacciato una gamba, cazzo. Antone, ma terrorista sei, ne stai uscendo? No. E allora quello cos'è, il ponte dei desideri? Il ponte degli innamorati, quello passi lì, se non sei con l'anello d'oro, ci scendi giù e sei a posto. Cazzarola, e allora va bene. Ma non è che bisogna indossare il paracadute, no, Antonio? No, solo mette metro di volo e niente. Avanti, Giuseppe. Leoncino, naturalmente. Ho detto, cazzo, sei un uscio a buco, cazzo, a te, anzi a tuo fratello deve scendere, deve crollare il ponte, a meno, cazzo, di passare tutto quanto quella cosa che c'ha. Abbanza. E Guzzo ci guadagna. Cosa bisogna fare? Cappa. Già va bene, già va bene. Bisogna bisogna farne, Antone, una di carne e poi una a base solo di pesce. Si può che fare tutti e due se vogliamo. Fatta bene, organizzata bene, da portare giù solo appetito. Carne ci vuole. Beh, si fa il conto dalle persone che si è, meglio che ne avanzi che se ne richieda. Ecco che io via. Fatta data, positivo. Bombolino, ci sei? Attenzione, sul binario 10, Antonio Bombolo, che ti chiama, su per Leoncino, cambio. Mani su per Leoncino, oggi, domani. Ante, chi è che mi chiama? Ti stavo chiamando io, che è entrato, c'è Giuseppe Tornado, c'è Giuseppe e ci siamo noi. Non vedi, facendo merenda? Scappa, facendo una cosa, stavo. Dai, vi ascolto, ciao Giuseppe. E beh, Bomboli, è tanto. Hola, hola. Ma guarda quello Smither cosa ti segna. Come Antonio? Beh, quanto sto arrivando con quattro bande normale. Santiago 7, Radio 5 qua. Già andate, dai. Comunque manca paragone, Giuseppe. Ah, ricordo la verità, All'altro baracchino. Al Saturnecco. Papà. Mau. Ora. Cazzo, c'ha dei picchi. Manca paragone. Ok, dai. Dai, io continuo ancora e riprendo fra un pochino, dai. Fra un po'. Continuate, continuiamo a farmi questa cosa. Va bene, faccio un secondo una cosa, poi entro subito. 5 minuti, via da Giuseppe. Ciao, Antonio, dopo allora. Scappa, via, è così. Avanti, Giuseppe, tornato. Scappa. Eccoci qua. Uiuiuia. Che tempi, ragazzi. Hola. Ma ho sentito anche stasera a Lucca. Se non mi ricordo male, sarà un'oretta fa. No, ci sentiamo subito. E da voi non l'ho già più inteso. Anche io l'ho sentito stasera, però non lo so. È sparito, è uscito, faccio un giro oppure non lo so. È positivo, già va bene, Uia, mamma mia, mal di schiena oggi, che la metà mi basta. Mi sono levato qualche peso pesante? Una scusa ci vuole, mio Leonci, per ogni cosa. Vabbè. Siamo nati per soffrire e ci tocca soffrire. E positivo, ma se continua questa musica mi sa che, ma non lo so, mi vorrei sbagliare, ma da che cosa avrà succedito, questo è poco ma sicuro. Beh, giustamente, se non cambia, siamo veramente nella padella siamo fritti, mesi fritti, impanati e fritti. Ma il discorso è che questi signori, secondo me, stanno giocando troppo sulla bontà della gente. Troppa disoccupazione, troppa gente disperata. E loro che si fanno il bello e il cattivo tempo, rubando a quattro mani. Non vorrei che il patatrac sia imminente. Lo vediamo adesso, quando andremo adesso a maggio, il sì, che ci sono le votazioni per questa storia qua, se la gente cazzo, capisce la povertà veramente. di portare, di dire basta adesso, signori belli, qua è ora di svegliarci, perché sennò andiamo tutti quanti, galleggiamo in mezzo alla, al cartofen, hai capito Giuseppe? Sì, va bene tutto quello che vogliamo, però il discorso è che io a questi referendum vado, perché vado, cioè senza ombra di dubbio, però quello che mi lascia pensare un po' che già noi qualche referendum fa avevamo detto no alla cosa, al finanziamento pubblico ai partiti, e hanno fatto nonostante tutto il contrario di quello che aveva votato la popolazione. Beh, giustamente, è come hai detto tu, però è cosa vuoi fare. Noi il dovere lo facciamo, poi se ne accettano le nostre proposte è buona città, se no continueremo sempre a fare quello che stiamo facendo e andare avanti con la nostra strada, poi è quello il discorso. Certo, il discorso è questo qua, che io andare a rubare non penso che vada, perché un piatto caldo ce l'ho sempre, grazie a Dio ce l'ho, però bisogna cambiare la questione, è quello il discorso. Sì, infatti tu ce l'hai il pasto caldo, c'è gente che non ne ha, c'è gente che è disperata perché rischia di vedersi portata via la casa, e diciamo che è un discorso un pochino più complicato, anche perché la gente ne ha veramente le balle piene di vedere questi quattro porci che si stanno arricchendo alle spalle nostre, alle spalle di chi non ha più il lavoro oltretutto. Soprattutto quello, adesso la piglieremo buona con questa storia di questa cosa che è uscita, di pagare in base a metri quadri della casa e tutto quanto, e anche quella sarà una piccola mazzata, hai capito? Una delle tante piccole mazzate che devono pagare chi è rimasto senza lavoro. E se uno non ha lavoro, con cosa paga? È come cosa vuol dire, io. Purtroppo, loro, adesso quella cosa lì, non si sapranno, non lo so io, cosa succederà. Cosa succederà con tutto questo casino? Certo ci sarà una piccola rivolta, perché la gente, tutti quei soldi là per pagare il costo delle tasse e tutto quanto, non ce li ha, di certo non ce li ha, però succederà un bel piccolo macello. Ma guarda, io ti dico una cosa, che fanno talmente schifo che a telecamere accese si scornano uno con l'altro, a telecamere spente sono tutti d'accordo, iniziando dal finanziamento dei partiti e finendola con questo IVU. È una cosa, guarda, indescrivibile. Troppa gente, troppo interesse, troppi partiti, troppi. Ci sarebbero voluti tre partiti, uno che governa e due all'opposizione, basta. Tutti gli altri fuori dalle palle, perché non ci fai nulla. Te l'ho messo una portante. Chi è avanti? Buonasera. Buonasera, chi è lì? Sai, male, però non la faccio parlare. Ho schiacciato per sbaglio, stavo muovendo il computer. Saluta a tutti. Buonasera, avanti Giuseppe. È positivo, dai, salutiamo l'amico che è entrato in questo momento. E niente, Dioci, purtroppo qui la musica è questa. Lo so Giuseppe che la musica è questa qua, però tiriamo avanti, come dice, tirare piano piano il nostro mulino, l'acqua del nostro mulino, piano piano la tiriamo su, poi quando acqua non ce n'è anche noi andremo a fare quello che fanno gli altri, altro non si può. Mi sono rientrato, eh. Appa, popolino. Appa. L'altro mi è sembrato... Chi è l'altro? Non so, non ho capito il nominativo, chi era l'amico, non lo so. Avanti Giuseppe. Dai, vediamo se ancora in ascolto l'amico, perché manco io sono riuscito a registrare il nome nativo. Sì, buona serata. Aspetta, sto mercato. Aspetta. Ciao, oggi Mario, Bello Orizzonte. Ciao Mario, ben sentito dopo una marea di tempo. Era ora di farti di entrare, era ora. Saluto a tutti gli amici. Niente, stavo manovrando il computer, siccome quando uso il computer la radio, cioè se uso la radio non posso usare il computer. Adesso ascoltavo, ho dato un colpo importante, non mi sono accorto. Mi scuso per la portata di prima. Non c'è problema, dai Mario, dai, non c'è problema. Comunque in ruota ci siamo. Io, c'è Giuseppe Tornado e Antonio Bombolo. Vai che per chi vuoi. Ah, cappa, saluti Tornado e Bombolo. Mario, niente, lo stavo entrando, sono sempre fuori dentro il fine settimana, quindi poco tempo per la radio. Ah, cappa, vabbè, cazzo era ora, meglio quando ti capita, e c'è 5 minuti di tempo, entra sul canale 10, non ci sono problemi. Cappa, no, entro volentieri, se ho il tempo di fare una chiacchierata, sempre volentieri. Via, avanti Giuseppe. Positivo, Lionci, dai. Salutoni Mario, Giuseppe Tornado da questa parte, ti super cordializza e rimette subito il mic al bombolino. Avanti a tutti. Buonasera Mario Bell'Orizzonte. Non tu ne hai sentito? Mi sento abbastanza forte qua, anche a zona moduli. Ah, io qua vicino a Leoncino, siamo un tiro di schioppo io e Leoncino, solo che io ho l'antenna nel terrazzino. Cazzo, c'è troppo forte qua, mi arrivi abbastanza... Ok. Bisogna vedere poi dove sei, rispetto a come Giuseppe, capito? No, niente, con un antennino piccolo, un boomerang sul terrazzino già va bene, dai. Cazzo, sono 40 dolce, sono. Ecco, allora sono agevolato, c'è un campo libero. A parte Gianni davanti a me, per il resto tutto a posto. Cazzo, non so come mi senti tu, ma sei quasi a fondo scala qua, eh. No, no, per me siete tutte e tre un ottimo segnale e ottima radio. Giuseppe è cresciuto moltissimo. Io non lo sento, eh. Cappa, Mario, la banda te la vai, cazzo, già eri da molto senza entrare, però cazzo, sono cambiato, da quando uscivo prima, che uscivo dall'antenna di macchina, adesso ho cambiato, Mario, Cappa Giuseppe, era ora di migliorare, dai. Comunque, saluto a tutti quanti, 7351, buonanotte a tutti, QRT per me. Ok, va bene, dai, Mario, e comunque entra, ho sentito il bimbi di... c'è anche cosa, mi adoro lo Pomponio. Non lo sento Mario per l'orizzonte, per niente, salutalo dalla parte mia. Cappa, ti sento piccolo piccolo Pomponio, saluto dalla parte mia, arrivederci. Piccolo piccolo, è un po' forte, no, che... forse lo senti poco tu. Cappa, dai, Antonio. L'amico Mario ti super cordializza e dice che ti sente piccolo piccolo, però ti ha tirato fuori. E meglio così, sono contento. Ti saluto da parte mia, non c'è problema. Un grande abbraccio, alla prossima, ciao. Cappa Mario, figlia, avanti Giuseppe. Positivo, dai, salutoni Mario, buon tutto e buon QRT e alle prossime. Avanti Bombolini. Ma salutone Mario, ce la risentiamo alle prossime. Chiappa. Beh, Giuseppe, come funziona? No, non va oltre il canale. Chiappa. Tu. Io sto dicendo a te, sto dicendo alle ore a Scoso, a Tornado. Chiappa. Bomboli. Chiappa, no. Funziona bene, no, va bene. Funzionare funziona bene, che non sale. Non sale. Non c'entra. Tocca. Vabbè, dai. E questo l'ha spiegato che pezzo era? No, non me l'ha spiegato. Non me l'ha spiegato. Ne sono stufo, guarda, va bene così. Gappa, dai. E ok. Andiamo a questa... Mamma mia, è micidiale. sento molto bene. Positivo, è K di rosmetro. Dimmi. Se l'ha presa. Io sto sistemando un coso, un DVD adesso, là. Al limite di aiuto dopo. Già sto ascoltando, non c'è problema. Sottointeso, se la prenda la linea radiofonica, E tranquillo, qua senti. Oh, mamma mia, che musica bella. Ad 80, se stiamo in un... Un CD di DVD. E quindi sono impegnato con quella, c'è dentro un limite d'oppa, va? Avanti le oggi, tanto anch'io, 5 minuti e poi devo scappare. Va bene, ma com'è quello che ho dato io, eh? Esatto, sì, quello da tutto, sì. Gappa, si sente bene. E va bene. Riprendi Bombolino. La scappa. Via. T'accorto la musica come te l'accorto io, un esiculare ci conoscente. Io voglio ascolto musica io, senti qua. Aspetta, senti, aspetta. Frequenza. Ascolta, tu hai una curiosità, ma sicuramente anche tu sarai un vecchio CB, mi sa che non ho avuto mai l'occasione di fare due chiacchiere con te, o sbaglio, perché non mi ricordo, diciamo, non sei un abituale della 27, o correggimi se sbaglio. Da qualche anno ci sono in 27, no, sicuramente è la prima volta che moduliamo assieme. Ah, perfetto, allora, come si dice, mi hai sentito per la premiera, giustamente tu direi anche a me. Comunque, se non sbaglio, ti ho sentito anche su canale 4, se non sbaglio, con Gianni di Chiaramonte, è possibile? Esatto, qualche volta ci siamo sentiti anche su quel canale, anche con l'amico Falchetto. E allora sì, no, perché mi stavo ascoltando il giorno, tanto faccio un po' di radioascolto, già fa piacere. Fa bene anche ascoltare, mi ricordo che anche pochi giorni fa avevi intrapreso un discorso che tu giustamente non togliamo adesso perché sembra festa oggi, dunque ero proprio concorde a quello che dicevi tu e avevi tolto un discorso abbastanza, come si dice, significativo da pensarci su e niente, mi ha fatto piacere solamente ascoltare e sono divertito tutto lì. Il radio è bello chiacchierare, cercare di scaricare anche un pochino la tensione che si accumula quotidianamente. E ultimamente la tensione che stiamo accumulando, perché oramai stiamo andando al lavoro non per portarci a casa due soldi per campare, ma stiamo andando a portarci due soldi solo per pagarci le tasse. Esatto, è proprio quello il discorso, dunque io ho preferito non entrare e ascoltare, mi è sembrata la cosa più giusta, tutto lì. E basta, niente, concordo con qualsiasi parola che tu hai detto, anch'io giustamente. Vivo questa situazione sicuramente un po' come tutti, comunque viviamo tutti a quanto pare nella stessa barca e dunque ciccia. Ma sì, ce la fa piacere ogni tanto che qualcuno parli, scarichi. Dall'altra parte uno, diciamo, ascolti, che ci aiuta anche quello, tutto lì. Avanti chi c'è nella ruota. Caffa, ci ho andato pure io l'altro giorno in quel canale lì. Chiacchierata mi ho fatto. E con chi, Bomboli? Bomboli. Posso dire, io Ah, positivo. Ascolta, ma quest'eco lo abbasso, va bene o cosa devo fare? Va benissimo, va bene così. Concordo. Positivo, dai, allora mettiamo un chiodo così e lasciamo tutto così. Roia. O per noi, già va bene. Leonci, e Paridosensi. No, sono qua, sono andato un attimo a Cotiata, piccolino, cambio. Cosa sei andato? Ma ho visto dei titoli miei, hai capito? Stavo parlando l'altro giorno. KK, noi abbiamo, non so se tu lo copi, Bomboli, l'amico Barracuda da Ossi. E mangiamo, ci sono copio io a Barracuda, e ci siamo sentiti più di una volta. Ossilandia, mi intende? Ha voglia, forte e chiaro, va benissimo. Ma io già ti ricevo bene qua, non ho problemi. Positivo, Ossi già è abbastanza in alto, dai, una posizione dominante rispetto a Sassari. E diciamo, da dove sono io già è abbastanza favorevole, un po' tutte le zone favorevoli. Guarda, adesso ho cambiato apparato, vedi se capisci che apparato sto usando, perché mentre parlavi hai nominato un apparato abbastanza particolare. Vediamo un po' se indovini. Un apparato particolare, il Saturneco. Azzeccata, sì signore. Sto usando, prima stavo usando in primi passaggi il 68S, adesso il signorino a Galaxy. No, bella come modulazione, bella, pulita, ed è un signor apparecchio. Infatti, se non ricordo, se non ho sentito mai, dice che ce l'hai anche tu. Poi non so perché non l'hai messo in moto ancora. Positivo, positivo, anch'io il Saturnecco ce l'ho qui di fronte a me. La storia, no, qua è un bel apparato, prende spazio, fa la sua sporca figura, nel senso buono, riempie, da, è qualcosa di mastodontico, poi alla fin fine sembra un baracchino, comunque anche lui c'è le sue particolarità, sono contento di averlo, ce l'ho 2 annetti e funziona egregiamente. Adesso lo sto usando con l'MP più 4. Positivo, positivo. Ah no, qui è tutto positivo, tutto alla grande. Va benissimo, guarda, è giustamente come dici tu, è mastodontico, però è anche comodo perché sopra ci puoi appoggiare altri apparecchi. Esatto, infatti sopra c'ho l'ARA 68 e il Kenwood Z1, RZ1. E io altrettanto, così ogni tanto ci scappa la fotografia, tutti gli apparati sono uno vicino all'altro, una volta che accendi tutto, guarda, sembra un albero di Natale. Esatto, fuori diciamo dal periodo natalizio, comunque sempre in festa, ogni volta che si accendono gli apparati sono sempre in festa, va benissimo, abbiamo la stessa predisposizione, va bene. Avanti Pomponius. Tutti abbiamo lo stesso gusto, apparecchi in più, apparecchi in meno. Antone. Dimmi caro, dimmi. Aspetta un attimino se riesco. Ecco qua, stavo guardando il catalogo della Marcucci e non so cosa prendermi. Boh, non lo so, scegli tu cosa prenderti. La verità, io l'unica cosa che posso pagare, guarda, vado USP, con 200 euro mi faccio la spesa per 2 settimane, a me del baracchino non me ne frega proprio niente, di cosa penso io. Quello che perché siamo, conviene comprare un baracchino, non conviene comprare più un baracchino, ma conviene comprare un frigorifero intero, guarda, anche algida, battere sia pieno di roba da mangiare, carne, cosa ti posso dire, di tutto là. Basta che sia pieno. Già c'hai ragione anche tu, dai. Però ero indeciso se ordinare il 7007 o il 7004, Antonio. Guarda, per me puoi ordinare un tiro di cosa, di USP. Se non ti va fastidio, lo dividiamo in due. Quanto posso dire? Per una settimana solo, guarda. Scusate se vi interrompo, che cos'è? Apparecchio o antenna? Io sono un po' ignorante in materia. Oh, è un apparato trasmittente della ICOM. È per la 27, no? E già va anche in 27 questo. Ah, ho capito, no? Sicuramente sarà un bel apparecchio, un bel apparato. No, l'unica cosa che mi manca a me per avere la mia stazione completa è un bel ricevitore HF. E io sono contentissimo, tutto perfetto, tutto sistemato e via. Sono quello che mi manca, io ho la mia stazione, mia personale, per sempre, finché campo, giustamente. Giuseppe, si compra da poco. Adesso si prende un bel 680, se lo prende a casa, è tranquillo, riceve e trasmette. Per il momento qua, siccome non c'è l'alimentatore, allora riceve solamente, poi quando c'è un po' di su di più, lui usa una trasmissione e c'è tutta la banda HF, c'è Giuseppe Troglione. Allora con 100 euro se ne esce. E io sono pienamente d'accordo, il problema è che sempre il discorso è quello, quando ordini da fuori le cose rimane sempre un punto di domanda abbastanza accentuato, lo sai, no? Sì, tu lo vedi in fotografia, poi ti arriva a casa sempre con la speranza che funzioni, è quello sempre il discorso. Invece sarebbe bello che qualcuno del posto ce l'avrebbe qua per dire sarcelo dintorni, in modo che uno possa andare, toccare con mano, vedere e poi provarlo giustamente e poi alla fine fare, diciamo, l'affare, ecco, tutto lì. Ah beh, come sì, c'è ragione che pure tu. Avanti Luci. Sai tu Giuseppe. Bagno. Sei emozionato, sì. Sicuramente. Comunque ho deciso, Antone. prendo il 7007 perché il 7004 ha 100 watt, mentre il 7007 me ne dà 200. Vabbè, raccontate di quello che c'è sopra di ricca io. Ordina qualcuno, uno di due, quello che vuoi, basta che sia buono, tranquillo e ti faccia felice. Gappa, gappa, gappa. No, cavolo, ce ne sono belli, ce ne sono veramente belli. Uno meglio dell'altro. Guarda, la Marcucci. No, cappa. Ma mi ha dato il coso, mi ha dato un cappellino, mi ha dato. Forse sta il faglietto, Marcucci. Hola. Scusa, tornato, io ho una curiosità. Quanto viene a costare quel po' di roba? Molto? Cosa vuoi prendere, prima o seconda mano? No, questa è nuova, cosa nuova dal catalogo. Dunque, da, c'è un po' di spicciolino in più alla fine. Eh beh sì, queste sono apparecchiature che non conviene, secondo me, comprare di seconda mano. Sai, a volte se fai una ricerca su internet e trovi dei negozi, ad esempio come questo Carlo Bianconi, non so se lo conosci, ma penso di sì, è abbastanza famoso, è uno che aggiusta apparati e poi dà la garanzia di un anno e via. Può darsi che lo trovi anche in seconda mano in ottime condizioni, giustamente risparmiando qualcosettina, poi giustamente tocca a te valutare un po' la situazione, ecco. È positivo, ma questo qui sta in internet, quindi avrà un suo sito. Sì signore, tu fai Carlo Bianconi e direttamente lo trovi nella prima digitura in alto, diciamo, sempre su internet. E lì c'è il suo sito personale, sì, ha prodotti nuovi, usati, garantiti, revisionati da lui, poi se puoi portare qualsiasi pezzo, spedirlo, lui te lo ripara senza problemi. È abbastanza internazionale come persona, il sito è abbastanza accurato, seria come persona, c'è tutto scritto, qualsiasi cosa che tu hai bisogno o qualsiasi informazione lui è lì a disposizione. Ripeto, Carlo Bianconi, ho fatto una ricerca, sono veramente dei begli apparati, anche retro, anche dagli anni 60, sì, dagli anni 60 sino adesso, i giorni nostri, ottimi prezzi, diciamo prodotti abbastanza selezionati, ecco, sono occasioni oppure prodotti di prima mano e così via, è abbastanza fornito, diciamo, per questo hobby, ecco, alla fine. È positivo, dai, quindi diciamo che in un qualsiasi motore di ricerca, digitando Carlo Bianconi, e riusciamo a entrare nel sito. Signore, sì, è proprio così. Perfetto, allora mi sono trovato il passatempo per domani. Perfetto, almeno dai, ti ho dato un consiglio buono, già va bene. Avanti, bombolo. Ma quando è che ci vediamo, Giuseppe? Quando volete, tu lo sai che per me non c'è problema. Quando volete, io sono sempre a disposizione. Gaffa. Stavo dicendo, Giuseppe, non hai mai visto il berrettino che mi hanno regalato? Negativo, me l'avevi sempre detto di questo souvenir che ti avevano mandato dalla Marcucci, però non l'ho mai visto. Ma no, mi ha dato Busaro quando ho comprato il maracchino, perché siccome la Marcucci posizionava al maglietto, allora gli altri berrettini me ne ha regalato due, me ne ha regalato uno a me e uno a papo, poi ho preso gli apparati. Sì, va bene, cavolo, se va bene. E beh, poi la Marcucci ha sempre, nonostante tutto, ha sempre avuto degli ottimi prodotti. Se non sbaglio, ci dovrebbe essere, se non è qui, no, lascia perdere, forse sto dicendo una cappellata io, aspetta, prima mi documento, prima di parlare, riprendi. Fatti un altro, dico subito. Torna, voglio chiedere una cortesia, un segnale da parte tua, un segnale di Santiago e di radio. Allora, presto fatto, qui nelle mie coordinate Santiago 9 e Radio 5, a bomba. Ah, perfetto, ti ringrazio. figurati, è il minimo che si può fare. Un giudizio personale, come radio, va bene, è troppo amplificata, robotica, distorta. No, negativo, niente di tutto ciò. La radio è bella, bella squillante, pulita, soprattutto molto pulita. Non ti stai portando dietro niente. E la radio è perfetta, perfetta. Poi il segnale anche per dove sei tu, qui è ottimo, ottimo. Io sono, diciamo, zona Sacro Cuore, Sassari, e va bene, guarda, va benissimo, ce ne fossero anche. Ah, perfetto, ti ringrazio. È che vabbè, io va bene, il primo dovevo dal 93 fino al 2000 qualcosa, poi ho mollato, tra una cosa e l'altra sono 2 anni che ho ripreso, dai, per fortuna non ho buttato niente, e mi sono voluto ricomprare un'antenna perché la c'avevo sopra sul tetto, ormai era a marcia da anni, e c'è una mezz'onda, niente di particolare, senza radiali, la Energy mezz'onda. Guarda, va benissimo, va troppo bene, lascia tutto così, mettici un chiodo, anche nei tastini dell'apparecchio mettici un pochino d'acqua in maniera da non toccarli, va troppo bene così. Ah, perfetto, ti ringrazio. Avanti, Pomponio. Vabbè, Pomponio è più superiore di me, comunque. Chiama, la Energia è una buona antenna, In quello sì, io ho la mezz'onda, invece Antonella c'ha 5 ottavi con 3 radiali, un pochettino più superiore della mia, ecco, però la verità, per quello che l'ho pagata abbastanza poco, la verità, vedo che funziona tranquillamente, pochissime stazionali, guarda, 1 e 1, ma esagerando, caricandola, pilotandola con 80 watt. Sempre 1 e 1, se no sempre 1 di stazionaria, neanche si muove l'ago, no, già è abbastanza ben tarata sia l'antenna che il capo quando l'ho piazzata, diciamo, sono stato attento un po' alle istruzioni in cui c'era scritto nel foglio quando l'ho acquistata. È proprio buona, no, già sono abbastanza serie come antenne, l'unico pecco che hanno che non tengono tanti watt, capito? Solo quello, Mi sa massimo, guarda, se la memoria non mi inganna, massimo 500 watt, non di più, ma per parlare con noi non ce n'è bisogno, va benissimo così. Massimo un'ottantina, 100, se ce l'hai per divertirti un po' quando c'è la propagazione, poi per qua va bene uscire anche tranquillamente, senza problemi. Bombo, in bagno sì. A Pomponio lo sveglio io adesso. Adesso mi metto il seghetto in macchina, sai, che gliene butto giù l'antenna. È cosa buona e giusta, Questa qua non ci avevo pensato. Antone, legati l'antenna, che sto salendo. Ma si è spostato di canale? Sicuramente. Leoncino, c'è anche Leoncino. Ci sei, Leoncino? Piazza che ci sono, Antone, ci sono, io sto facendo ascolto, cambio. Va bene, ma mi piacerebbe anche ascoltare la tua voce, io a te tocca, dai. Tanto di canale. Come, Antone? Sto che mi ho fatto un giro veloce, non mi sembra che ci sia soltanto il canale. Allora si è spostato di stanza, dai, fa niente. Avanti, Leoncino. Sono qua, sto facendo ascolto. E allora, Antone, cosa mi racconti? E cosa ti racconto? Niente di particolare. Giornata abbastanza tranquilla, soleggiata, un po' di caldo, fuori dal normale, dalla stagione, poi per il resto. Per il momento niente di particolare, dai. Si tira avanti un po' come tutti, tutto lì. Poi qualcosa di nuovo, di positivo. Nulla di nulla, proprio zero. Ma mi hanno detto che stai lavorando. Lavoricchiando? E stai partendo presto la mattina? Verso le 6:15, sì, dai. No, 6:15, 10:00. E sei a Olbia, no? Per il momento sì. E viaggi tutti i giorni? No, il viaggio sia da un pezzo, poi un camioncino direttamente da lì, sino a Olbia. Ma non vi conviene, Antone, pigliavi una casetta quanti siete e rientrare solo il fine settimana? la verità, General Zaccato c'era questa proposta, adesso bisogna vedere, ma non... purtroppo dipende anche dal lavoro, c'è veramente poco, qualche giornatina così, qualche settimana, adesso bisogna vedere un po' com'è la situazione, ma niente, niente di particolare. Alla fine non c'è il tanto per stare lì, capito? Per stare lì a Olbia e poi rientrare a fine settimana. Purtroppo non c'è il tanto. Poi, ieri notte fortunatamente mi ha chiamato, dove lavoravo prima, negozio di mobili, oggi è riuscito un'altra giornata, a Pordotone a piazzare una camera a ponte da solo, come sempre, da almeno oggi è stata qualche giornata positiva. E vabbè, allora ce ne fossero di quelle giornate così, magari ogni giorno io ti auguro ogni giorno, ha capitato ogni giorno, almeno solo, come dire, mezzo solo e male accompagnato. Sì, quello sì, ma nell'ambito dei mobili hai sempre bisogno di un'altra persona che ti aiuti. E dunque, tanto mi immaginavo che andava così, poi con calma, piano piano me l'ho piazzata senza problemi, e poi non è mezzo finito, sono partita alle 9:20, da scaricarmela e piazzarla alle 9:30, all'1:30, 4 ore, dai, 4 ore e mezza. Ho fatto tutto il lavoro senza problemi, ormai è l'abitudine, sai, più di 15 anni che ne ho fatto in questo mestiere, dunque non nemmeno immaginavo che andava così. Comunque in questo ambito di lavoro hai sempre bisogno di una persona a fianco, ecco, che ti passi gli attrezzi, se ogni volta devi scendere dalla scala per qualsiasi pezzo, tu lì il tempo lo perdi lì, se no in due l'avrei già piazzata in due. Capa, vabbè là. Ok, riprendi Giuseppe. Pagamma. E se avete anche dei buoni mobilieri, eh? Purtroppo no, qui ti devo smentire, ci ho lavorato lì 5 anni ad Attilio Caredamenti ed è completamente fallito, disintegrato e guarda, e poi alla fine sono in cenere, sono completamente spazzati via dalla faccia della terra. C'è successo, io a lui l'ho conosciuto di persona, allora ai miei tempi. Ai tempi sì, quando lui era vivo, diciamo che era una persona che si dava da fare. Poi morto lui, i 9 figli non hanno mai avuto la pazienza e la voglia di mandare avanti il lavoro, c'è stato un minifismo generale, poi alla fine il risultato è che tutto sotto sequestro, anche la casa in cui abitano, così me l'ho detto ieri. Sono proprio nella pupù. Me lo posso immaginare, dai. Ma gli altri non è possibilità di lavoro? Non c'hai provato? Beh, la verità, io ho lavorato anche a Pettoredamenti, questo Xilema, Tirocca, un po' a Conforamo, poco con un altro amico che prendeva lavori, come si usa a Sassi, padroncini. Ma a Sassari nell'ambito del mobile... No, non è rimasto più niente. Qualcuno qua acquista Conforama, purtroppo acquisti quello che acquisti, diciamo la verità, cartone pressato con chili di colla, la gente si accontenta di quella, poi non sapendo neanche i problemi che dà nel periodo estivo specialmente questi mobili, no, a Sassari è completamente morta la situazione, stanno proprio arrancando tutti. Lo so, sono tempi brutti per tutti. No, dicevo io, gli altri che avete lì a Ossi, quelli che adesso hanno, cioè adesso, è già da parecchi anni che hanno aperto lì a Muros, lì non hai possibilità? No, purtroppo ho chiesto, hanno il loro personale, e sono al completo, sia a Muros e poi gli hanno aperto anche una Olbia, e anche lì lo stesso hanno il loro personale. E ho chiesto più di una volta, no, sono sempre gli stessi da anni e lì purtroppo non si può, niente da fare. E come li ho provati tutti, la verità, a Sassari. Se ogni tanto qualcuno mi chiama quando hanno qualche consegna da fare, ma una volta, una o due volte al mese, perché proprio si vede che le consegne sono proprio al limite. Certo, sì, capisco. Comunque io parto sempre dal presupposto che è sempre bene tenere le porte aperte a tutti quanti. Sì, concordo, pienamente d'accordo. Però purtroppo è così, si sa com'è la situazione, via, c'è poco da fuggire, no? Non riesci mai a metterla da parte, la vivi ogni giorno, capisco chi lavora, com'è la situazione, tutto lì, bisogna attingere la cinghia, ma mi sa che la cinghia ormai è arrivata al limite, altro cosa puoi fare, sperare, non farti venire, per carità, l'ansia e la depressione, se no guarda, ti tiri proprio la zappa ai piedi e finto veramente di vivere. Adesso come stiamo vivendo, tutto lì. Questo secondo me è il segreto, l'unico segreto possibile, diciamo, per andare avanti, ecco. E infatti, ecco perché io dico che la radio, nonostante tutto, aiuta. Aiuta perché ti confronti, ti scarichi sempre con l'attenzione, perché ormai stiamo vivendo a mille perché oramai la gente, cioè stiamo passando veramente all'esasperazione. E quello che non riesco a capire io, oggi come oggi, è che siamo un'intera popolazione contro una massa di cialtroni e non riusciamo a buttarli via a calci in culo, scusando della frase, ma proprio a calci nel culo. Poi passo il microfono. Questa è una bella domanda che sinceramente io no, io sarei il primo, ma la so, se vai da solo ti prendono per scemo. Sicuramente la persona si accontentano di vivere a pane e acqua, poi fino a un certo punto ci vuole sempre qualcuno che sprone un po' la situazione, ecco, tutto lì. Ma secondo me l'italiano non ha le palle per dire come corsi cani, c'è qualcosa che non va, una bomba via pure dalle scatole, qui comandiamo noi. Vedo che bene o male li stanno bene, sembra così stanno bene, e se ti comporti bene e fai come ti dicono loro, perché purtroppo così, ho sentito delle storie abbastanza interessanti, non mi sarei mai immaginato che veramente succede così queste cose. Comunque nei corsi che hanno le palle si fanno rispettare, a quanto pare. Qua invece spera che la gente scenda la manna dal cielo, ma mi sa che è sceso una volta e non scende più. Ci puoi giurare se si fanno rispettare. Dai, facciamo girare, dai, avanti. Leonci? Via, sono qua. Il discorso è quello lì. Via, per carità, andiamo a vedere quella cosa lì. Noi non ci riusciremo mai a buttarli fuori questi qua del governo, perché ne sanno più di noi, quello, per carità, e cosa vuoi fare? Dobbiamo essere sottomessi a questa gente qua, purtroppo, come avete detto voi, noi italiani non ci abbiamo le palle per dire le cose come stanno, e dunque ecco i risultati. L'altro giorno mi hanno detto una cosa, e nonostante tutto mi sa che non aveva nemmeno tutti i torti quello. Dice: Giuseppe, vuoi sapere che cosa bisogna fare per scatenare una rivoluzione qui in Italia? Ho detto: ma non ne ho la più pallida idea. E quello mi ha detto: guarda, tanto c'è gente che sta morendo di fame, padre di famiglia disperati, e nessuno si muove. Togli il calcio agli italiani la domenica, vedrai la rivoluzione che succede. Aspetta un attimo, molto al calcio, Maria De Filippi, ti sei dimenticata lei, attenzione. Positivo, quello è vero. Però io non mi sono dimenticato quello che è successo iniziando dall'anno scorso, non so se vi ricordate la primavera araba, che cosa è successo. No, sinceramente no, rinfrescami un po' la memoria, perché la verità che si dica, io sono, almeno lo giuro, è 3-4 anni che non guardo né più telegiornale e neanche hanno passato in nessun quotidiano, sono proprio disinformato, perché è una mia scelta, non voglio farmi condizionare dalle trontate che si entrano sia nei telegiornali che nei giornali, perché loro scrivono e ti informano non della verità, ma ti lavano il cervello per il loro modo di vivere, capito? Ti fregano in quel modo lì. Dunque, io sono fuori dalle notizie quotidiane da 3 anni e sto veramente bene così da una parte. Sì, ma in effetti non hai tutti i torti, perché tanto se stiamo dietro ai telegiornali c'è solo da rodersi il fegato. No, è solo per dirne una, proprio l'ultima, quello che è successo in Libia, che hanno ribaltato diciamo il governo, no? Tutti sappiamo benissimo che era un governo di dittatura con Gheddafi. Ci siamo dimenticati cosa è successo in Egitto, ci siamo dimenticati le tantamme che c'era stato in internet, iniziando con la adesso non mi ricordo come si chiamava quel paese lì stesso africano che aveva iniziato proprio mi pare fosse iniziato dalla Turchia il tantamme della cosa della proprio rivoluzione di piazza, rivolte di piazza, cioè la popolazione stufa di quello che stava succedendo, cioè veramente erano stufi di farsi succhiare sangue ogni giorno, mi hai capito? E lì noi non ci arriveremo mai. Io spero di sì, io spero veramente di sì. Vediamo un po' come la situazione, migliorie zero, solamente tasse su tasse, prima o poi qualcosa succederà, secondo me dovrebbe essere una cosa inevitabile, arrivato a un certo punto, secondo me è solamente questione di tempo, tu vedrai che qualcosa succede, vedrai che veramente succede, e lo spero con tutto il cuore. Avanti Bombolo, niente Bombolo, Pompon si è rientrato. Se no passo il mic a Leoncino. Cappa, riprendo io e via. Quello il discorso che ha detto Giuseppe è giusto. Via, per carità, siamo un paese che noi non riusciamo a mandarceli via questi, come li vuoi chiamare, c'è un nome che non riesco adesso a dire e appunto perciò è quello il discorso e non riusciamo mai a liberarci da questa gente, capito? Avete visto domenica scorsa che cosa è successo nella partita con il Genoa? Ho visto. Ecco, vedi, vanno a rompere le balle, cioè la gente scende in piazza per una partita di pallone, si scannano per una partita di pallone. Fai quelle cose invece per difenderti il posto di lavoro. Allora, non c'è la persona, ma sportività, bisogna dare merito, se ha vinto l'altra squadra, se è andata più brava, bisogna ammettere le cose. Cioè non fare queste porcherie, se è sportivo è pure quello, e vedere che la nostra squadra è superiore a te, la tua squadra deve migliorare per essere superiore a te, non si può fare queste cose, lasciare tutte cose, che senso ha? Bisogna essere sportivi al 100%. Lo so Anto, ma infatti io dico questo, all'italiano per scendere in piazza, per fare una rivoluzione, non basta che gli stiano succhiando il sangue, hai capito? Basta che gli tolgano il calcio, la domenica sei tranquillo che cosa succede alla rivoluzione. Ragazza, no, cioè, quello lì anche, cazzo, se ci togliamo anche quella se ne non ammara. Tutto quello lì è un hobby che però non ci sono assolutamente bisogno di fare tutte queste cazzate, di andare a picchiarsi per che cosa, perché le cose gravi stanno arrivando adesso, guarda, è perché non so se c'è qualcuno vicino, se non avrei la bocca piena. Anto, mettiamoci in testa una cosa, che chi più chi meno, tutti siamo sportivi, però la famiglia e il mutuo non te lo paghi con lo sport. Quello è un hobby, cazzo, dai, stiamo esagerando adesso. Come ognuno c'è gli piove, piove, uno c'ha l'obbi del calcio, uno c'ha le cose. Io quando c'è da lavorare lavoro, quando quando sono a casa, o quando posso, le cose faccio, mi ascolto anche la forza, non ho problemi. Però provvedienti che non fate mai con isso. Facciamo perdere, va. Volevo dire, io sono finalmente d'accordo con quello che sta dicendo Bombolo, però deve far capire che, come stava dicendo Tornado, che se la gente ha le palle di fare casino perché una partita era truccata, mettici quello che è, perché sinceramente non sapevo che è successa a questa storia, se hanno le palle di farsi rispettare per quella partita, dovrebbe avere anche le palle per difendersi giustamente il posto di lavoro e per non essere sfruttate finché morte non ci separe. Dunque, anche quello, se hanno fatto casino in quel caso, si può fare anche casino per rispettare diciamo la vita quotidiana di ogni giorno, capito? Il discorso era quello. Ma io che ti ho detto una mezz'ora, ti ho detto che bisogna fare concetto, e quelli sono cose molto più importanti del calcio, però anche quello lì, se permetti, cioè, è un hobby che sia la domenica di fare la propria squadra pacificamente, non facendo cazzate, spaccando tutto e facendo atti civili. Quella lì è una cosa in più che si ha, appunto qua. Avanti Leoncino. Giustamente è come uno quando è tifoso di una squadra va a vedersi la sua squadra, non deve essere coinvolto in quelle cose che succede tramite il stadio, hai capito? No, uno quando va a pagarsi il biglietto normalmente va a vedersi la squadra sua, paga e non vuole essere rotto le scatole, giustamente. Però io dico anche questo, se siamo anche per colpa di questa gente qua, di questi giocatori che pigliano a milioni di miliardi e miliardi, se loro avevano pigliato lo stipendio come un operaio normale di fabbrica, o quelle 800 euro o 900 euro, vedrai che le cose sarebbero state molto diverse. No, ma per l'altro non sono d'accordo neanche di quello io. Che ci siano anche tutte queste storie che vengono pagate più di quattrine e cose. Ah, giocarsi devi giocare. Poi vediamo cosa sai fare. Che fa? Tornado. Ehi, cappa Bomboli, dai, io detto questo vado in QRT, tanto che ho qualcosina da svegliarmi, sono quasi le 11, e niente, dai, vi ringrazio per il QSO, spero di risentirci presto, dai, auguro una buona notte a tutti voi e una splendida giornata per domani. Giuseppe va in QRT, cappa. Cappa, cappa, dai. Ciao Giuseppe, ce la risentiamo. Avanti Giuseppe, Leoncino. Anch'io fra un po' vado in colletti e ci sentiamo tutti presto. Fate un buon 144 e una passata, una giornata per domani bella come la volete voi, ok? Cambio QRT per me, ci sentiamo tutte le prossimine. Ciao ciao, buonanotte a tutti. E io auguro buonanotte a te, Leoncino, e a Tornado. Ci sentiamo nei prossimi, se coincide. Ciao, buonanotte a tutti e due, allora, dai. Ciao, Occidentia, mi intende? Io a forte e chiaro. Ma, visto anche oggi arrivo con quattro fatti, troppo magia. Sicuramente ci sarà qualcosa nell'aria, no, arrivi benissimo, io ho voglia, ti sento bene, tranquillo, senza problemi, e a volte le giornate, quando fa belle giornate diciamo sembra che il segnale viaggi tranquillo, senza impedimenti e problemi. Non date sonno, no. Ciao, ma Ciao a tu. Vabbè che sono oggi, no? Ti sento di splatter. Ovviamente no, comunque buonasera, ben sentito, Dio Falco. Devo puntualizzare una cosa, hai sentito un tac? Cosa c'hai? Tac, da mio. A Londra. Tac di che cosa? È un tac di un microfono particolare. Ma non è sempre quello il microfono, perché il tac è fa? Sì, è un tac abbastanza particolare, non sono tutti i microfoni che lo fanno. E mi ha dato subito questa impressione. Correggimi se sbaglio. Faccio un cucciù. No, sono sempre lo stesso. Adoro. È sempre lo stesso microfono. Ma no, stiamo facendo il suo stack, ma me lo faceva sempre, non è che non lo facesse. Magari si notava di meno prima. Tutto quanto è, tutto gamba di Rogero, così, se... E chi? Antonello, è che è tu che intendi sblattere, è un dizzere. Non ti ho capito bene, di sblattere o chi? Buoni ha detto, ti sentivo di sblattere. No, ero con l'altro che poco fa sono andato al canale. Gli ho detto, sei già arrivato qua, in una buona, sono già fatto in fretta Antonio. Cosa mi vuole? Non ci vuole niente. Ok dai, io vi saluto. Perché io ho più voglia. Non ne ho più voglia. Ciao, buonanotte a tutti allora, a tutti circolare. Ce la risentiamo domani alle prossime. Buonanotte Antonio, alle prossime. Vai avanti con Puglia, fai girare per Antonio. Saluti. Ciao Antonio, ci sentiamo, buon coretti, buon tutto. Mi stare bene, buon tutto. Bombo alle prossime, io vi chiedo un minutino intanto per alzare per diminuzzicare Terry, voi dai continuate. Antonio. Così che mi cambia il nervo. Grazie. Ehi, lo so caro, io stavo pensando a te poco fa e tu sei sparito, poi sono venuto con te, vicino. Allora Antonio, sono giusto entrato a salutare la verità, perché li ho sentiti poco anzi parlare, tu hai sentito anche di sbattere, non sono venuto a salutare prima te, e poi giustamente sono risceso lì in quel canale e ho salutato anche gli altri, era dove fare il saluto. Quello stacco che sente Antonello, ma confermi tu, vedi un po', se te lo torno a fare, vedere. Lo senti? Sì, il microfono a tavolo fa quello, fa il tac, si sente il microfono a tavolo, non preoccupate, non è niente. Non ti preoccupare per quello. Non è niente, non è nulla. No, no, infatti anche Claudio diceva che era il classico microfono a tavolo che fa così e basta, non c'è da preoccuparsi più di tanto. Capito, Antonio? Tutto qua. Eccomi. Sì, già lo so, c'è proprio per quello. Avanti, Antonello. Via, no, ma io, vabbè, per come sono sentito questi giorni, questi da quando sono modulato, che sono dei microfoni particolari che, diciamo, hanno questa particolarità. Sicuramente molta amplificazione da quell'effetto lì, tac, tutto lì. Come Claudio per dire, c'è dei microfoni che si sentono, proprio quel tac quando preme la portante, ma niente di particolare. Dunque ho pensato che hai cambiato il microfono, avresti messo qualcosa di superiore, ecco, tutto lì. No, no, Antonio, è sempre lo stesso. No, ma questo l'ha sempre avuto, quando schiaccio la portante a fare quel tac, no, ma l'ho sempre avuto questo microfono, capito, Antonio? Va bene. Avanti, Pompus. Dimmi, caro, dimmi. Togliamo una curiosità. Per ricevere, diciamo, le barche, che è la banda marina, l'RZ1 riceve quelle bande lì, sì? La 57, sì, le riceve. C'è bisogno di un'antenna specifica, perché io mi ricordo delle barche, in qualsiasi barca, hanno sicuramente la banda marina, quegli apparati apposito per quella frequenza lì, e hanno delle antenne sembrano tutti uguali, un tubo lungo bianco, neanche un metro, usano quello. Per ricevere quella frequenza c'è bisogno di quel tipo, di quella tipologia di antenna? No, non c'è bisogno, basta avere un'antenna di 90 centimetri, di costruire questo, ma quindi deve ricevere. E la mezz'onda invece non va bene, giusto? In quelle frequenze lì non risuona, giusto? Beh, non risuona, non sono più tante che risuona in quella frequenza lì, già lo sai. Lo sai più di me, no? Ecco, perfetto, no, volevo, perché a volte in alcune cose risuona, altre no, dipende dalla frequenza. E dunque, c'è bisogno di un'antenna che vada bene sia per l'HF... No, per le... No, VHF e UHF. Un'antenna specifica. La Discona bene va. Perché sta guardando su internet pochi giorni fa e ne stavano parlando male come antenna. Scusate, intervengo io vi saluto, che avevo un buon 144 e tutte le prossime lezioni per qui da parte di Falchetto, va? Tutte le migliori. Ciao Torello, ciao Popoli. Ci si ascolta. Ciao Anto, ci sentiamo alle prossime allora. Quella della Discona è adatta per questa frequenza qui, perlomeno quanto c'è scritto nel catalogo, pure non lo so. Messa in opera cosa si riceve oppure no, Bene. Ciao Falche, sentiamo le prossime, buonanotte. Non lo so, infatti volevo chiedere a te se per ricezione era un'antenna, diciamo, valida, ecco, costa pochissimo, lo vite interi sui 35 euro. Però guarda, nelle recensioni molti se ne erano pentiti di averla acquistata, la stavano vedendo a 20, secondo come girava dice me la bella regalo pure, perché dice sono stato scontentissimo, così c'era scritto in molte recensioni per quella tipologia di antenna. E invece istruiscimi, si può costruire un dipolo apposito per quelle frequenze? No, per la pura U c'è un'antenna unica di macchina, va bene. Poi per gli HF basta fare un dipolo, ma è lungo, troppo lungo, cazzo, un dipolo per 4-5 metri è lungo 10 metri e 20 per braccio, alzando. Allora, per la data di cui ti prendi la seconda piccola, ma metti presente, ha bisogno di... metti un piano di massa mia. Non devi mettere, devi solo ricevere. E tu metti che magari la usi in trasmissione qualche volta con l'antenna. Ti metti un problema apposta, cosa c'entra? Lo so, ma io non ho nessun privasa per sfruttarla in trasmissione, che poi non mi interessa trasmettere, mi piacerebbe solo ricevere, tutto lì. Solo per quello te lo volevo dire, capito? Tu mi stai consigliando un antennino di macchina che va bene anche quello, se trovi lui. Lo ripeto, uso per ricevere, solo a ricevere. Forza, bisogno di più, non so pure no. Sì che ci vuole per ricevere, perché è meglio che vi segnali più deboli. Poi devi tu. Ho capito, perché io non cercavo di massa per mettere su l'antenna dove ce l'ho io. C'è un tubo, mi pare che da 1,5 metri, 2, e poi da lì direttamente l'antenna. E basta. Ho una gaffa apposita per... Siete presenti quelle gaffe lunghe della ZG? Dove puoi attaccare, per dire anche un'antenna di macchina, no? C'è una parte che stringe e poi l'altra in foro per avvitare l'antenna. Attaccandola al tubo non, sicuramente non basta come piano di massa, oppure sì? Il tubo sì, già va bene, solo che ti ho una gaffa L, cosa ne so, già le vendo, non è che non le vendo la cosa, la fusata. Ti pio una caffetta di quelle, la caccia dal palo, c'è il foro, le lancia la basetta e sei tranquillo. Ah, perfetto, ora posso, se li vendranno queste antenne qua, per la V e la U. Sì, che le vendo. La fusano direttamente, no? E io. Ora provo a vedere, chiedere cosa c'hanno, sperando che costino poco, dai. Sono tanto, sicuramente sono di quelle piccoline che c'erano giù una piccola spirale e poi l'antennino, niente di particolare. Dovrebbe essere abbastanza piccolo, giusto? E la puglia è piccola. Ah, perfetto, va benissimo. Allora mi faccio una ricerca, a vedere cosa trovo. Così dicevo, qualche stazione in più, dai. No, già è bellino questo, abbastanza particolare. Hai visto, già va bene. Come ti sto levando i scenari adesso? 9.30. 9 più 3 nella radio è sempre 5 per la pulita. Tondi, tondi, tondi, 9.30. E adesso con te? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, quasi 15. Ci manca poco al 15. Che cosa lo so, potrei salire. Non può essere. Ma il salame. Staccato, staccato. Ah, non può essere. Così sono attaccato. Staccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E così sono attaccato. No, no, no, no, aspetta, ho visto male. Attaccato sei 9.35, scusami. Ah, vai a casa, cicu, cicu, cicu, cicu. Cicu, cicu, cicu, come va? Tutto bene, tutto bene. E a te, come va? Tutto bene, ci chiudiamo allora, va? Chiudi tutto, chiudi tutto. Ogni tanto vanno a caricare, una cosa impressionante, cacchi. Forza, tutto una cosa impressionante. Non lo so, a volte capita così. Io. Il computer. Io mi sento veramente tanto, Ma così va bene oppure va bene? No, no, siete proprio una bella passata di ventola, di raffreddamento. Abbastanza accentuata, io ti sento così. Anche tu, papà? Sì, leggermente ce l'hai comunque. Allora, riprendi quando chiudo, poi voglio provare un attimino, lo spengo il computer, questo qui è il rumore, senti. Allora, avvicina il microfono. Sì, c'è quello già. E non ha problema. Senti quanto scala questa cosa, ci metto le uova sopra e le cucina. Cosa c'è? Di a valvola? E già valvola c'è. Adesso mai metto a posto quella 4 di valvole. Ah, ma stavi usando quella monovalvola? Quel petto che avevo beccato in terra sulla parte sinistra? Solo soletto, tutto nudo? Ehi, quello li stavo usando, eh. E l'hai tu? Vai, dai, l'hai rimesso di nuovo in moto, alla fine hai cambiato i pezzi che aveva bisogno, sto uscendo benissimo e senza problemi, la verità. Sì, aumenta il segnale, ma non sembra che sia lì che lavori bene. Già aumenta, già vuoi che aumenta. Se lo metto solamente con i condensatori, ho messo 4, così metto ne ho 2 solo. 4 in serie, ho visto che già funziona. Diciamo per dare più resistenza alla fine, ecco, per avere di nuovo quel problema lì. Già, la voglia che pompa. È un bambù sta geccia. La verità non mi sono sistemato già dalla settimana fa. Adesso ho usato stasera. Messo nel 4-4 metro l'ho più accesa. C'è Giuseppe, al solito lo proviamo. Se funziona, se piglia fuoco va bene, sono paziente, perché invece non ci sono niente, quindi va bene. Ma tranquillo che è perfetto. Perfettissimo. No, funziona veramente bene. Alziamo la mano col mio. Auria, auria. Va bene, va. Ce l'ho provato stasera, mi stavo cucinando le bistecche, cazzo, esco da poco questa geccia. Ci provo domani, là. Me ne passo in quelle già tante adesso. A domani, ciao Antonello, ciao anche a Fabrizio e chi ci è rimasto qua su questo canale. Ci stiamo domani la limite. Via, ciao Antonello, buonanotte, sentiamo alle prossime. Attenzione, prova. benissimo, benissimo, scusa se mi sono assentato, ma ho fatto un giro in bande laterali e c'è un bel po' di propagazione. No, stai uscendo bene. Fa piacere, ti farò 5 minuti, poi chi va lì, non vorrei mancare più un pezzo di più. Sto provando perché facciamo due cosucce, quindi ce l'ha l'unica vicina di lavorare. E sei un bel amplificato, È fastidioso, va bene. Capito, scusami. È fastidioso o lo devo ammazzare? Sì, ma non tanto, a me si sente un bene, non so, forse sto usando un altro apparato, sarà più selettivo, cosa ne so. Si sente un bel po' il ventolone, poi per il resto va bene. Il ventolone, questo riportato un attimo in quelle cose, non quanto più mi tieni, come lo tengo di solito, ma non c'è un po' di microfono. Ma non è che ce l'avrà internamente la ventola dell'apparato, oppure no? Sì, c'è anche quello. Aspetta che provo a spegnere questo, aspetta. No, cioè, sicuramente hai un microfono abbastanza rifinito che ti tira qualsiasi cosa durante la modulazione, tutto lì. Io sento così, poi no, se da puoi eliminare, vedi tu, non è fatica, poi ripeto, si sente, ecco. Se spegnere il computer, non è il computer che lo senti. Abbastanza. Ma così vicino da sentirci così tanto ce l'hai questo computer? Sì, questo microfono così se lo sollevo così tanto alla fine è molto amplificata, capito? Ecco qua, adesso si è spenta, come ti sembra? Con l'effetto computer sì, ma leggermente c'è di sottofondo, un'altra ventola, meno rumoroso della prima. Non so se la ventola della radio o del trasformatore. Non ti preoccupare, adesso è molto molto di meno, sicuramente il computer che dava un pochettino più di fastidio durante la modulazione. No, adesso già va bene, c'è ma è molto molto limitata. Io faccio un passaggio quanto si agisce, poi va sotto il microfono e 10 secondi come va meglio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da parte mia il secondo passaggio, l'ultimo che hai fatto. Come me l'ha amplificata? Esatto, molto meno amplificata, giusta, amplificata ma non troppo, giusta come a me piacerebbe ascoltarla, ecco. Invece così? Ti sono un po' troppo amplificata. È anche molto troppo accentuata, sì, è vero. Comunque, ripeto, come ti sembra? Cioè, che è incomprensibile, strappa? No, ma strappare non strappa, ti fa la voce talmente grossa da quanto amplifica, poi quel minimo rumore si sente moltissimo, più del sottofondo, la verità, qualsiasi movimento che fai, tu che ti sposti con la sedia, tocchi il microfono, ti senti... Invece così? 1, 2, 3, 4, così, secondo te va meglio? Sì, confronta all'ultimo passaggio sì, ma tra una cosa e l'altra se hai fatto tre passaggi, correggimi se sbaglio. Sì, ma adesso l'ho ammassata leggermente, capito? Proprio un pelino, questo è un proprio millimetrico come regolazione. Secondo me dovresti abbassare un altro pochettino di più. Si è abbassato un altro po' ancora, 1, 2, 3, provo, abbassato un altro po'. Si è tolta la parte rauca quando parli. Cosa dico? Secondo me così vai benissimo. Segnale, la radio, no, non cambia assolutamente niente, la radio è bella amplificata, però ben controllata come amplificazione. Ecco, secondo me va benissimo così. Poi vedi tu e ti riesci ad ascoltarti un po', giustamente tocca a te decidere, ma secondo me, abbiamo detto parere, vai benissimo così. Perché poco fa secondo te era troppo amplificato, vero? Sì, esatto, confermo. E adesso invece come la senti, c'è l'amplificazione giusta, c'è l'amplificazione, si sente come, ma non troppo prepotente come gli altri passaggi precedenti che hai fatto, ecco. C'è l'amplificazione, ma perfetta, giusta, secondo me come dovrebbe essere. Gli altri sono troppo prepotenti, capito? Dunque ti danno la voce abbastanza grossa. Così è la tua personale, ecco. Però amplificata al punto giusto. Ok, ho capito. Fammi il paragone con Claudio, che io ce l'ho quella come punto di riferimento. In confronto a Claudio, con la senti detto nella stessa radio. Allora, nei passaggi precedenti, quando eri quasi a manetta sicuramente, eri come Claudio quando Claudio è a manetta anche lui, ecco, quell'effetto lì, non so se tu lo ricevi come lo ricevo io, amplificatissimo sino allo spasimo, ecco, nei primi passaggi che hai fatto, così sei, secondo me, come dovresti essere, giusto, perfetto. Ho capito. Vabbè, adesso la prossima volta che entro, la riporto in quella maniera, voglio vedere quando entro cosa mi dicono. Nel settore della radio ogni volta il accumulato un po' quella roba lì, che lo devo regolare nuovamente, no? Ma alla fine è sempre questione di microfono, non di radio, giusto? No, io regolarmi, considera che posso fare da 0 a 10, sono a 1 e qualcosa. Ah, ho capito, sì. E dunque tocca a te, diciamo, posizionare il punto giusto e cercare una soluzione migliore. E secondo te la mia va bene così? Io so le mie +4 a 2 come regolazione. Sì, già va bene, a voglia. Ma adesso se lo sollevi non so come va sollevato per curiosità. Ora così sono a 2, così è a 5. E così a 10 al massimo. Però se non è che cambia così tanto, ma sono pure a 2. A 2, così a 10. E così. E a 2, sì, a 2, giusto. Sì, va bene, però non cambia molto. Ti faccio un esempio, io sono a 1, guarda. Se adesso metto da 1, adesso passo da 1. Impressionante. Panteri adesso a 4, così. Paurosa, è incomprensibile da quanto è amplificata. Oh, vabbè, forse anche la radio che stai usando dà quell'effetto lì. Io sempre a 2 vedo che va abbastanza bene. No, tu sei spaventosamente amplificato. Ti mangio le parole l'amplificazione. Abbasso. Esatto, e non ti mangio le parole, ecco, no, non c'è questa parte rauca che alla fine è un effetto che ti dà. Troppo rauca, no, non ti dice a te com'è, per la tua voce, ecco. Infatti adesso quindi diciamo che in questa posizione è un po' rauca, non è più a quest'ora della notte, dai. Ma se no, se vuoi proprio togliere una curiosità, prendi il telefonino, parli e poi ti faccio ascoltare, già registra abbastanza bene. E senti la differenza sia dal primo al secondo passaggio, dovresti notarla, ecco la differenza. Se vuoi possiamo fare questo piccolo esperimento. Prova, lascia stare, oggi una domanda, se non puoi toccare a fare, se faccio prima ascoltare, mettere su un'altra radio le cuffie e ascoltare la fine. Come vuoi, non mi costa niente, come vuoi tu? Allora, dimmi quando sei pronto. Sì, aspetti, alza e prendo il telefonino. Allora, un secondino, registro, sono pronto, eh? Ok, allora inizio. Allora, questo è il primo passaggio, quanto sono a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Questo è il secondo passaggio che l'ho abbassato un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, adesso te lo faccio sentire, aspetta, l'ho salvato, ed è questo qua, vediamo un po', lo faccio andare. 28 aprile, sì. Notata la differenza? Mi fammi ascoltare per favore, perché la prima strappa. Esatto, perché è molto amplificata, aspetta, eh. Aspetta un attimo, favore. La faccio ripartire. Sei riuscito a sentirlo, giustamente un po' il telefonino comunque un po' la situazione, però bene o male, sei un po' d'orecchio, sei riuscito un po' a capire un po' come ti senti? Sì, quindi diciamo che tu adesso, ma vicino, posso comunque avvicinarlo, diciamo che così, come in questo passaggio, tu la senti abbastanza chiara la voce. Esatto, sì, guarda, sto usando il Galaxy. Adesso in questo momento posso usare il 68 e provo a sentirti lì, non so se penso da apparato a apparato cambia, ma non credo più di tanto. No, già va bene, dai. Così non so, poi domani quando entro lo rimetto in quella maniera, voglio vedere cosa mi dicono per curiosità. Infatti, in genere lo tengo sempre così. E alla fine così, beh, si sente molto amplificato. Poi l'effetto del trappare, in realtà non me ne sono accorto, è quasi che tu abbia più orecchio di me. No, però se va bene, se la lasci così, se come chiedi un po' anche un giudizio agli altri, vedi un po' cosa ti dicono, da lì un po' ti pace, dai, ti regoli, e lasci, diciamo, in quel punto lì non lo tocchi più e sei tranquillo. Affermativo, mi sembra che c'era qualcuno che voleva entrare avanti. Forse no, ma vuole che siano scariche, sono delle scariche pazzesche. Ma per tanti, QRM è quasi a zero, oggi è abbastanza silenzioso. No, anche io, QRM è zero, ma scariche pazzesche. No, da parte mia, Capitano, poi ripeto, ho fatto un giro così in USB e c'è un bel po' di propagazione a quest'ora, sicuramente sta aprendo. Intanto faccio ascolto anche lì. No, ma c'ho dei colpi ogni tanto, sentivo 7-8 di scariche elettrostatiche. L'altro giorno mi ha fatto, ho dovuto riparare una per una stecca del genere. Vabbè, però c'è qualcuno sotto che vuole entrare avanti. Non vuole entrare. No, ma la verità, domani ha messo pioggia, così mi hanno detto. Domani, domenica, lunedì, dovrebbe cambiare di nuovo il tempo. No, io la sera quando spengo tutto stacco corrente e direttamente giro il regolatore, lo metto, diciamo, a zero in modo che tutti gli apparati siano scollegati e ogni volta che smetto di modulare faccio sempre questa operazione. Fai bene. Ok, dai, io ti saluto, me ne vado. Sentiamo le prossime, dai, buonanotte, buon proseguimento di serata e buon lavoro per domani se devi lavorare. Ok, d'accordo, buonanotte, perché domani ho altre 5 e mezzo che lavoro e quindi un'altra riprese. Ho sentito un segnale che penso di aver capito che se entrava nel mio incontro io mi facevo un favore. Forse non la voglio, dai, vamo, buonanotte. Buonanotte. Cosa ti serve? Controllo il segnale. Vieni avanti, dai. Noi sì. Vado a te. Vieni avanti un attimo, dai. Sono lontano comunque. Non sei qua vicino. Negativo. Negativo, sono astronauti. Ma liscio? Esatto. Ma te l'avevo detto. Ma adesso di segnale. Perché com'è? Micidiale. dove arrivo, perché? Sì, sotto i 9.40, sotto i 9.40 e prima non arriva il 9.15, arrivate qua. Ho messo quella vuole la tua, no? Ma la radio com'è invece? 100 volte migliore. Troppo veloce. No, era una questione di coso. Di stazionare, capito? Quando arrivo a stazionare mi stanno creando problemi. E quando ci stanno a stazionare ti fa fischiare la radio, tanto è vero che adesso posso rimettere il DM1000, ma va benissimo questa qua, dai, questa è uno ZG93. Unico amplificato. Capo di Roger. Non è un granché, però dai, mi sembra che sia chiara, vada abbastanza bene. No, il segnale c'ho forse 10 watt, dai. No, vabbè, ti sto dicendo che va bene alla grande, cioè io, a parte la radio, è la prima volta che riesco a sentirti bene, che la verità, non sto scherzando, proprio la prima volta che riesco a... alle volte cazzo mi si girava anche le balle perché non avevo incomprensibile da ascoltare, in confronto agli altri arrivavi basso, voce brutta, adesso sembrava anche di questo così, però detto che non sarà a casa uscendo con un po' più avanti con l'apparecchio grosso. No, negativo. No, adesso è a posto, dai, la stazione dovrebbe essere fissa, stabile, senza nessuna, diciamo, aggiunta da fare, quindi va bene così. Tu stai arrivando con un Santiago di 9.20 a picchi di 9.30, è una radio di 5 solita. Ascolta, Santiago, è prima come ti arrivavo? No, a livello di segnale qua ho guadagnato per una questione di ricezione, capito? Comunque chiunque ha guadagnato qualche punto di bimpi, cioè qualche punto S in più, però è per una questione mia di ricezione, però stai uscendo benissimo, perché qual è il problema? No, sto chiaro, perché ho finito poco fa di chiudere tutto, che avevo quel problemino che ogni tanto devo batterci sopra per farlo andare in trasmissione, sì, grazie a parecchie minchiaie, infatti quando le prendi uno lo sai metterci le mani, perché per quanto può essere perfetto ogni tanto alla fine quel mediatore lì mi ha procurato Massimiliano dalla sua radio, ma non era alla fine forse non quello, c'è una scheda filtri, toccando, cioè però è bene o male la conosco ormai, sto svoltando, ma anche guardando la componente, non vedi niente, il passato una scala che non si fa le ma infatti guarda, se mi dovesse capitare il primo un problema, a parte questi problemi strani, alla fine conviene che smonti le 3-4 schede, le metti sul banco un paio d'ore e le ripassi tutte, perché tanto con tempo maledizione nemmeno con la lettera avere una microfrattura, eppure può dire problemi. Lo so, ne devo avere una qua sullo squelce di questo baracchino qua, perché ogni tanto quando lo tocco va via la voce per poi ritornare, quindi se lo schiacci, cioè se lo schiacci da un lato, quindi deve avere una quella che si chiama saldatura secca. Sì, ho queste radio qua dopo 20-30 anni ne hanno, anzi più non so quanti anni avranno, poi alla fine anche la maggior parte dei problemi sono nelle saldature che tu le guardi con la lente di ingrandimento non vedi niente, capito? Devi andarci in due più lungo il punto a fare l'intorno, riprenderle tutte e poi riprendere. Anche oggi questa presa già due volte, che una volta il segnale a quelle gracchini scrivere quei gracchini che ogni tanto faceva. E cos'era? Dove portava il cavetto il refere da una scheda all'altra? Cacchio, cioè, ma lo sai che vuol dire che l'ho guardata con la lente, non si vedeva niente, però era lì sicuro come tocca. E prima di il problema non è fare due, è individuare il problema. È individuato, sono le saldature, a posto, non abbiamo detto niente. Adesso sta parlando ogni tanto, problema, quando andava a schiacciare non partiva. Quando lo spegnevo ogni tanto, andava in trasmissione però non andava a latte, capito? Sulla scheda filtri sono arrivato lì ed era lì proprio lì, ero convinto che alla fine c'è una scheda piccola dietro, come l'ho toccato lì, e invece poi alla fine non era nemmeno quello, scheda filtri dove ci sono i relativi come sì, ieri l'ho controllato, niente, io ho ripreso tutte le saldature a posto. Sì, ma sono quelle che si chiamano, no? Saldature secche, ma saldature fredde. Il problema è poi che queste radio, la maggior parte di queste radio, venendo da fuori, hanno subito comunque un viaggio in corriere, sai come le lanciano, basta che si subiscano un colpo pesante, è normale che gli elementi si stacchino, comunque quelle saldature lì tendono a cedere, poi il tempo, il fatto che lo stagno sicuramente inizia a essere vecchiotto, è normale che accada, dai. Beh no, ma nemmeno se non ti fai si sento fredda, no, perché con la saldatura fredda prova subito il problema. 3-4 mesi, un anno, capito, dopo un po' là. Ma qui c'è infatti il problema di questo radio. Io guarda, di questo 440 mio, lo sai che ne avevo due, no? Alla fine uno l'ho dato via, perché aveva quel problema in FM, nemmeno la suono, perché alla fine avevo fatto, ti ricordi l'affare che ho fatto, no? Te l'avevo spiegato. E quindi ve l'ho fatto. Ho controllato questo, ma intanto ho toccato, si era immacolato, tutto, mi sono anche aperto le bande, era proprio immacolato. E quello va tu via la mia, questa non so se l'hai vista, voi sembra di sì che l'ho fatta vedere, non è un graffio praticamente, due sotto, nuova, proprio anche da vedere, è difficile trovarla così. E grazie a Dio da un sacco di va bene di più. Però comunque ogni tanto una carezzantina cazzo gliela devi dare. Lo so, ma è normale, la bellezza e il dinamismo di quelle radio lì. Adesso sono tutte digitali, realmente non hanno bisogno di riscaldare, non hanno bisogno, cioè sono molto statiche, capito? E sono statiche anche dal punto di vista di poterci mettere le mani dentro, perché essendo microcircuitate devi avere una stazione particolare ad aria calda e soprattutto gli occhi buoni, perché quello di ricchi baracchini, perché anche nei baracchini si presenta lo stesso problema, è che lo stesso quelli, chiamiamoli analogici, ci potremmo un po' mettere le mani chiunque al pari di un motorino Sio o di un Garelli. Adesso un po' come per gli scooter, anche i baracchini sono ipertecnologici e non sai dove mettere le mani, obiettivamente, anche perché non puoi staccare quelle resistenze, perché è perché non li puoi staccare con un saldatore normale, è perché non si capisce molto del circuito. Beh, io infatti guarda, è perché quello 250 era il mio, se no ti dico che non me l'avrei preso, allora magari sì, però quella pentola non me l'avrei preso, perché quella scarica aveva fatto parte del ricevitore, ma io ci avevo buttato 20 ore, 25 ore, 30 ore, non so sopra quanto ci ho buttato per trovare il difetto, e quindi allora, cioè, quando seguivo il segnale di sbattevo dentro, a occhio subito sono arrivato alla scheda quella danneggiata, e proprio dietro la rivisitazione RF c'erano tre resistenze a sostituire, ho sostituito le tre resistenze e lui arrivava sino il segnale arrivava sino al arrivava, però comunque i fetti non erano alimentati, perché ci sono nella parte ricevente, ci sono i primi in tutti i ricevitori, comunque tutti ci sono i primi due fette, no? Che sono la parte forse più delicata, quelli che partono prima, ma sono anche la parte più importante dell'apparecchio, perché prende il segnale e lo amplifica, per cui fargli fare i mix, tutto con una serie di giri che fa. E cosa succede? In quei due effetti ci sono anche abbastanza componenti precisi, devono essere, perché amplificano molto, quindi devono essere dei componenti di altissima qualità, se no ti amplificano anche la mondezza. E non arrivava attenzione lì. Li ho sostituiti, anche se non era proprio lì, però quella volta li ho controllati, li ho messi al banco, comunque avevano qualche problema, quindi. Però poi quando li ho cambiati non arrivava la corrente, e c'è sopra la piastra un circuitino che fa CDC, no? Praticamente lui arrivava le tensioni e poi le distribuisce nei vari rami. E lì praticamente c'era una pista di tutto micro, proprio piste, solo toccando l'ho ripreso, dopo un po' io sono arrivato a trovare le correnti, non sono arrivato, ho detto che avevo capito che era lì il problema, c'era un dentro il sistolino che non tocca, qui arriva, qui non esce, toccando, tac, è ripartita. Una leggera scalattina, era proprio una microfrattura, probabilmente come è arrivata, cioè la botte, con una microfrattura su una saldatura microfrattura, e quindi ha ripreso a funzionare. Ma tu considera che ogni volta devi fare un controllo, cosa fai? Gli sbatti il segnale dentro, arrivi lì, devi prenderti lo schema, seguirtelo, poi giri proprio lo schema, come lo puoi chiamare, lo schema della radio, quello che è lo schema, non lo schema funzionale, ma lo schema, la fotografia del circuito stampato, e quindi devi cercarlo, e poi ci trovarlo in questo che su tre strati, sopra, sotto, devi girare prima di trovare il punto. Cazzo, cioè, ogni volta per trovare un punto ci mettevo 10 minuti, capito? Prima di ogni misurazione che dovevo fare ci mettevo 10 minuti per trovare quel punto di, per la misurazione. Quindi c'è una cosa pazzesca, con la lente di ingrandimento, gli occhiali, cazzo, gli occhi gonfi. Immaginate anche che menti devono avere le persone che progettano questo tipo di apparati, anche se sicuramente alcune di queste cose sono fatte al computer, nel senso proprio hanno dei valori, dandogli dei valori poi elaborano il circuito da soli, ci saranno dei software sicuramente, però è assurdo. Ma a livello di differenza di anni, lotte 50 da un 440, quanti anni sono? Non vorrei sbagliare, ma io credo almeno 10 anni e fruscia, forse una decina d'anni e fruscia, lo sai, è già una tecnologia quasi, è tutto tecnologia SMD dentro, quindi come componenti sei così, sì, 90, io ho 10-12 anni dopo uscita, 13 anni come radio. Il 140 e il 440 sono comunque degli anni 80, mentre invece quello lì è degli anni 90, dai, fine anni 90. Fine anni 90, anni 90. Sì, volevo dire, no, no, vabbè, perché allora sono 20 anni, anni 90, stiamo parlando di 20 anni fa, 23 anni fa. Come era un progetto di 20 anni fa, però oggi ci sono radio, comunque siete, se capitano che la vedi di qua, portate di cose completamente diverse da 440. 440 da quella tu inizia, la gira, la fai, questa invece è tutta una schedata, tutta tecnologia SMD ed è un casino, veramente, poi trovare i componenti, no, non si può, ma veramente io, anche se uno riesce a farlo, secondo me, di giusto ci può dare un'occhiatina, perché alle volte magari è una resistenza, sai, a volte è una pista interrotta, due cazzate allora sì, però poi alla fine conviene chiuderla e non spedirla, perché anche se trovi il problema, tu considera che quando trovi due fette devi aspettare un po' di giorni perché li ordinati. Cioè, è anche avuto fortuna anche a trovarli. Davvero, Giorgio, so che non mi è arrivata ancora niente però di ritorno, di risposta da Cagliari. Ho spedito quella roba e non mi è arrivato niente di per quanto riguarda la marca da bollo mancante, come hanno spedito a te. Ma a me lo sai che mi hanno risposto il giorno dopo praticamente, non so se il giorno dopo, cazzo. Se quando vogliono e se vogliono, figurati, scusa, stiamo parlando delle poste centrali della Sardegna, adesso non so se hanno riaperto lì dove c'era il gasdotto, però prima tu immaginati che tutta la, se tu spedivi un qualcosa per dire a Florinas, non è che andava direttamente a Florinas, scendeva prima al centro smistamento di Cagliari e dopodiché risaliva, immaginati che giro doveva fare. Adesso credo che abbiano riaperto lì vicino a Santa Maria la centrale, quindi centrale smistamento, però loro vanno in diretta, figurati, è raccomandata e la raccomandata, evidentemente la tua gli è arrivata in tempo e allora il giorno dopo te l'hanno fatta, poi già non è che si stanno ammazzando dal fare in quell'ufficio, figurati, mi ha attaccato un piombo l'ingegnere che la mette a basta. Sì, quello sì, no, ma io guarda, sicuramente io lo spiego la mattina presto, io sono convinto che loro l'hanno consegnata il giorno stesso. Loro l'indomani, secondo me, l'hanno due giorni, cioè fate un ticino, non ci vedo, ma che altro è possibile, che così l'abbiamo già elaborata e me l'hanno rispedita indietro, io proprio non riuscivo a capire, no? due giorni e mezzo, non manca altro giorno, ero, non lo so comunque, arrivato tutto a posto. Ascolta, fai una prova, voglio fare, voglio avere una base buona radio, guarda, dimmi che differenza c'è. Se no ci smettiamo in questa maniera, che cosa sta succedendo? Sono in cuffia e ti sento più croccante, nel senso che la radio è più spinta e amplificata. Ecco, a terra. Proviamo a lasciarla così, vediamo come succede entrando il microfono. Ma è troppo amplificata secondo te? Per i miei gusti, sì, è un po' troppo, nel senso che è una questione soggettiva. Sicuramente era meglio, era più piacevole prima, soprattutto di notte, questa è più croccante, più soprattutto medi però spinti, capito? È una condizione quasi di iperprocessore. Tipo come senti il radio, eh? Esattamente, non lo volevo dire, ma è esattamente il tipo di radio che piace a lui. A proposito, non si è sentito stasera? No, lo stavo cercando. Anche perché mi seguo a controllare un po' di segnali, mi seguo un po' di controlli da lui, che ha alcune cose, ora conosce la mia radio e tutto quanto, quindi invece poi ho sentito chiamato, ho avuto piacere sentirlo. Allora io con questo lo lascio così, vediamo cosa mi dicono, mi sono abbasso poco a poco, e niente. Cosa volevo dire? Niente, non volevo andare a letto, mi c'è tanto se ho fatto banacua, tanto perché volevo andare a letto, ho sentito anche un controllo, la parola adesso ci ho buttato altri 20 minuti, capito? Devo alzare le 5 e mezzo. No, stasera fra l'altro ero a coso all'ippodromo di Chirimane e ho incontrato Gianni doppio rum. Niente, con la famiglia che arriva. Ma e come siamo messi con lo studio? No, allora, la verità, questa volta non sto studiando niente. Ma Roberto non l'hai sentito? Che tanto cacco ci volevo passare, oggi è 28, domani 29, 30, 20, se ce la faccio passo lunedì, però ho notato che fuori tempo massimo. Perché? Ma per dirgli appunto di fare la domanda, non lo saprà. Mi vuoi che questa volta non la voleva fare. No, le voleva fare lui. L'unica cosa, Sandro Conan, a proposito, se dovesse essere in ascolto, attenzione Sandro Conan, negativo, però bisogna dirlo anche a lui, ed è ancora in tempo, perché comunque credo sia valido. Io ho chiesto all'ingegnere, mi ha detto che non c'è nessun problema, non scadeva il 30 comunque. Sì, perché anzi, sono sempre di meno, capito, quindi vogliono fare il numero, non hanno messo, quando raggiungono il numero poi fanno la data, capito? Beh, bastano due domande perché si riunisca la cosa, quindi ci siamo già come numero. Vabbè, due siamo e tu, se due di commissione loro non saranno tre, uno fa l'arbitro e ci facciamo una gariglia. Non c'è problema, non c'è problema. L'importante è uscire, come si chiama, con la... come era il punto amarilla? Con la... non me lo ricordo. Di segnale, ma io ho detto che l'ho rimesso male, non era possibile, aspetta, perché da quella zona, da quell'altezza, da quella, mi dovevi arrivare uno dei più forti, invece di uno dei più bassi, capito? Non era possibile, adesso c'è un segnale come quello di Claudio. Col trionfo amarilla, eppure sai che non è accordata neanche questa, ti dico la verità, per quanto la Siri 2008, basta che gli metti il, come si dice, lo stelo finale su quel segnetto che c'è e non c'è problema di accordatura, però se, guarda, eppure se salgo di canale c'ho qualcosa di più, mi dà qualcosa di più questa scarpetta. Non si va l'antenna. E allora? Ma si va l'antenna o non si va l'antenna? Ma l'antenna non sono con l'antenna, cosa significa? Se sono pulito sono con l'antenna? No, qualcosina c'è. Qualcosina c'è. Ma c'era anche prima, eh. C'era anche prima, eppure non otteneva questi risultati. dato che stiamo parlando di una 5 ottavi contro una mezz'onda e soprattutto una mezz'onda scordata, quindi... No, assolutamente, il riscontro favorevole da parte di tutti è completamente diverso, assolutamente, il segnale è molto più corposo. Guarda un attimino, così come va come modulazione di radio, sempre bene? Sì, molto va. La pari roccia. E poi aspetta un attimino, aspetta. Se ci sta ancora l'ascolto, scusa, buonanotte.